Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, benvenuti, buona domenica, sono le 14:34 primi e una manciata di secondi, quasi 35, e cominciamo come sempre intanto ringraziandovi, come sempre, di volerci così bene. Voice Anatomy ha i suoi protagonisti subito in studio. Al mio fianco c'è non solo una voce ma anche un corpo. Non devi parlare, non devi respirare. Noi apriamo sempre salutando chi oggi festeggia degli anni importanti, che ci hanno regalato magari con la voce, con il corpo, eccetera, dei momenti straordinari. Parliamo di una persona nata tantissimi anni fa, perché Hans Christian Andersen, il 2 aprile di tantissimi anni fa, che ci ha regalato queste favole meravigliose. Allora, utilizzando la prima voce che ho protagonista al mio fianco, senza presentarla, perché non ci leggi tre incipit, come se stessimo tutti sul lettino e tu, nostra mamma, non nonna, mamma, che ci racconta queste tre favole. La prima è La principessa sul pisello, poi La sirenetta e poi Il brutto anatroccolo. Tre righe per ognuna, tanto per presentare il nostro ospite e gratificare il grandissimo Andersen. Allora, grazie Valerio. C'era una volta un principe che voleva sposare una principessa, ma doveva trattarsi di una principessa vera. Perciò si mise a viaggiare in lungo e in largo per il mondo, ma ogni volta non riusciva a decidersi. Principesse ce n'erano un po' dappertutto, ma erano principesse vere? Non si riusciva mai a saperlo con sicurezza. Ogni volta sembrava mancare qualche cosa. Alla fine decise di tornare a casa sua, ma era pieno di tristezza per non essere riuscito a trovare una principessa vera. Beh, hai preso anche l'intro, meraviglioso. Secondo incipit, ti prego, La sirenetta, come comincia? In mezzo al mare, l'acqua è azzurra, come i petali dei più bei... Va bene, guarda. Fiordalisi, e trasparente come il cristallo più puro. Ma è molto profonda, così profonda che un'anfora non potrebbe raggiungere il fondo. Bisognerebbe mettere molti campanili uno sull'altro per arrivare dal fondo fino alla superficie. Laggiù abitano le genti del mare. Eccola, che bello. Sei libera la sera dalle 22 in poi per fare una tournée a casa dei genitori che hanno sofferenza con i bambini. E l'ultima la leggiamo, dai, ci sta, insomma, è bellissimo. Voi ascoltare la tua voce non è poco, eh? Era così bello in campagna, era estate. Il grano era bello giallo, l'avena era verde e il fieno era stato ammucchiato nei prati. La cicogna passeggiava sulle sue slanciate zampe rosa e parlava egiziano, perché aveva imparato quella lingua da sua madre. Intorno ai campi e ai prati c'erano grandi boschi e in mezzo ai boschi si trovavano laghi profondi. Era proprio bello in campagna. Eccola lì. Beh, Valerio giustamente mette ciò che è giusto, che ci siamo messi sottofondo. Un applauso. Io ringrazio Valerio, il nostro tecnico del suono, visto che la Roma ha giocato ieri, oggi lui è presente. Ringrazio Rachele, nostra caporedattrice di se stessa, i miei grandissimi autori, Alessia Navarro, capoprogetto autrice, insieme al grandissimo e bravissimo Mauro Meconi. Grazie dall'altra parte a Milano, la messa in onda, insomma, abbiamo ringraziato tutti, ma non ho ringraziato ancora la protagonista al mio fianco. E ancora non voglio dire il tuo nome, ma voglio far ascoltare un film, non che è doppiato, perché tu sei anche una grandissima attrice. Invece voglio sentire un momento di un film che è campione. Tutti i film che hai fatto ultimamente sono campioni di incasso, ma a livello storico, di sempre. Il protagonista è Checco Zalone, i coprotagonisti sono lei, lui, gli altri, non voglio dire ancora il nome, ma tu qui eri la zia. La zia, no, di... no, la mamma. Sì, la mamma su Covado, ma su Cado dalle nubi. Ah, sei la zia, sì, e lo sì. Zio. Io lo faccio apposta perché voglio tutte e due qui. Grazie. E allora sentiamoci un momento di Cado dalle nubi, che con Zalone, la nostra protagonista, accompagnato dall'altro protagonista, che poi gratificherò con grande nome e cognome. Ascoltiamolo. Checco, guaglio, come stai? Madonna, la zia. Senti un po', Luisa. Io non mi intrometto mai nella vita di mio figlio. Lui lo sa. Una cosa sola. Perché non mi sposa? A tavola! È la fidanzata di mio figlio. Bella, eh? Signorina, è un regalo. Devo pagare io e mia nuora. Quando fa? Mi tratti bene, eh? Sconticino. Vediamoci da parecchio con Alfredo. Sarà 10 anni. 10 anni? Accidente. Perché non mi fai mettere la testa a posto a quello? Ma sai quante volte ci ho provato? Ah sì? Niente, sì. Proprio... Quello è come a me. Ah sì? Io da giovane ho dato addosso. Femmine appalate! Bravo! Poi vado a incontrare mia moglie. Basta! E allora, signori, Ludovica Modugno al mio fianco. Ciao la a voce, tutti. La voce che abbiamo ascoltato, chi è? Il grande... Gigi Angelillo. Gigi Angelillo, compagno di una vita. Compagno di una vita e... Che è giusto salutarlo oggi. Se n'è andato. So, se n'è andato. Con un sorriso, noi lo ricordiamo, non vogliamo... Però mi sembrava giusto ricordare un grandissimo professionista, un grande attore, un grande doppiatore, un grande compagno di vita, sia nella vita che poi nello schermo, perché insieme avete dato vita a questi personaggi straordinari. Ti ringrazio molto di questo regalo, anche ma perché... Ma quale regalo ce l'hai fatto tu a noi? No, era la prima volta che io non ho il coraggio di rivedere i film né di sentirlo, perché sennò allago dappertutto. No. Io, quindi è la prima volta che lo risento, grazie a te. No, grazie veramente ancora a te, questo è stato un film bellissimo, ma Ludovica... Tu esordisci già all'età di 4 anni, sì, nello sceneggiato. Ero già malata. Tu già a 30 anni eri in pensione, già con l'Empals piena. No, a 36 per a 36, verità, eravate tu, Chevalier e Barry White. Basta, cioè, non... in pensione con i primi sceneggiati, che era addirittura si intitolava Il Dottor Antonio. Sì, sì. Non conosco io, ma pensa... No, ma non poi ho detto quando sei nata, per praticamente cui... sono tutti morti quelli che c'erano. Come sono io tutto... ho una locandina a casa di teatro che ho fatto a 7 anni, sono tutti morti. È un epitaffio, non è più una locandina. Sono l'unica viva, io mi tocco quello che non c'ho, ma insomma ecco... Vabbè, Ludovic, meno male che stiamo lontani, se no diventava una pomiciata questa apertura. Però bello, cioè, è cominciato così e poi successivamente debutti nel doppiaggio addirittura subito con Marcellino Panevino nella parte del bambino protagonista, perché una volta le donne grandi doppiavano i maschi. I maschi, i bambini. Perché sì, perché i maschi erano i maschi. Ritenuti un po'... Gnocchi. Sì, erano, un sono, po' gnocchi, sono ritenuti... Minus abens. Ecco. Cioè erano un po' tardini e allora le bambine invece erano più furbette. Infatti invecchiamo prima. Non è... No, sì, e rimanete pure. Di più di noi. Guarda, è rimasto tutto com'era. E a 7 anni, nell'Alcesti di Euripide, con la regia di Guido Salvini. Sì, lì sono morti tutti, lì. Proprio pure, tutti. Pure lì. Sì, io buongiorno... Tristezza sono rimasta. Oggi a voi sanatomi rimaniamo tutti sani. Sì. Cioè, quando lo racconterai fra 70 anni, ma dice il Porobino, te lo ricordi, mi è servito. Ma è rimasto lì così. Per cui hai cominciato, cioè, hai fatto anche Cime Tempestose, hai fatto tantissime cose. Hai cominciato, ma veramente presto. Com'è? Com'è allora, nata questa com'è... cosa? Dunque, c'è sempre uno zampino della mamma, ma non è che la mamma mi spingeva. Ma faceva che... l'attrice, mamma, no, papà, no. Mia madre era pittrice, ma lei voleva fare l'attrice. Ma siccome mio nonno era colonnello dei carabinieri, certo, diceva che le attrici erano tutte... Ma ecco. Eccole lì. Se può dire. Mignotte? Sì. Se può dire. Siamo sdoganati dalla zanzara qui. Ah, vabbè, da allora Cruciani, tranquillo. Siamo sdoganati, qualcosa allora, possiamo dire. Non gliel'ha fatto fare, però lei ce l'ha passato col latte a me e a mio fratello. Mio fratello che Paolo, è più grande di me. Paolo Modugno, bravissimo. Sì. Lui ha cominciato a 5 anni perché stava sempre appiccicata alla radio, perché la televisione non c'era ancora nell'Ottocento, tu lo sai. No, non c'era. C'eri tu, la Carrà e Baudo, però c'eravate già. Forse sì. Ecco. Avete capito insomma quanti anni ha Ludovica? Insomma, io quando sono nata io, verso i 4 anni, già ero malata perché facevo i radiodrammi con le lenzuola, non giocavo con le bambole, volevo fare con mio fratello, ho imparato a leggere e scrivere coi libri suoi e poi ho detto a mamma, ora mi fai recitare, e lei dice sì, vabbè. E poi infatti hai fatto delle cose incredibili. No, poi è stato mio fratello invece. Paolo. Perché Paolo faceva questo Dottor Antonio, cercavano una pischelletta di 4 anni che dicesse 3 battute, c'è la mia sorellina che vuol tanto fare l'attrice. Ecco, là primo contributo è impazzo. Ecco, là, che poi tu sei pugliese. Sì. Ma parli tutti i dialetti, adesso sembra una veramente Trastevere. No, io sono nata a Roma. Tu sei nata e me ne vanto, però. Ah, certo, sono, però da papà pugliese, mamma toscana. Nonno siciliano. Ammazza che aggrovigliamento. Nonna umbra, tutto. Madonna mia. Però il pugliese ce l'hai dentro nel cuore. Beh, sì. E poi con questo fatto dello zio e la mamma, perché sì, poi ci ascoltiamo. Anzi, andiamo in pubblicità, la prima pubblicità, andiamo proprio con l'altro momento di Quo Vado, dove tu sei la mamma insieme al grandissimo Maurizio Micheli, sì, del bravissimo Checco Zalone. Vai. E se ne accorsero anche i miei genitori di quanto mi ero ormai integrato lì in Norvegia. Mamma, la cintura. Sto dietro. Anche dietro nei paesi civili, ok? Ma tutti questi figli sono suoi? Che fai, mi dai del lei, mamma? È chiaro che sono miei. Ecco, per piacere mi dai un fazzoletto di carta. Facciamo adesso per due lacrime e abbattiamo un albero, mamma. Sai che cosa succede in Amazzonia? Non lo so. Informati, mammina, informati. Amore! Dimmi! È arrivata Inger! Arrivo subito! Ma chi è che si sposa domani? Si sposa il terzo compagno di Valeria, il papà del piccoletto, il biondino. Ah, Larsen! Ecco, quello. Ma se il compagno di Valeria ha un figlio da questo nuovo matrimonio, il bambino che nasce, eh? E che gli viene a essere a Checco? Viene ad essere il... Fammi pensare. Caterina, allora, cos'è che ti fa soffrire? Il fatto che ha avuto altri compagni? No, non è quello. I miei figli? No, che belli che sono. E allora cosa c'è che non va? C'è una cosa che trovo inaccettabile, Valeria. Cosa? Un pizzetto biondo di mio figlio. Faircam Air & Ocean. Spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com. Vi presenta... Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, il vostro Pinuccio Insegno ai microfoni. Sono le 14:47 primi e 52 secondi in questo momento. Sembra una radiocronaca. Al mio fianco Ludovica Modugno, che abbiamo ricordato gli inizi e non la fine, perché le ultime cose. Le ultime cose. Come sì, attrice, che sono stati questi film straordinari con Checco Zalone, Quo Vado, dove eri la mamma e poi la zia e poi la mamma. Nel prossimo che fai? La nonna? Che cosa fa? Non lo so. Che bello, ma parli un po' pugliese. Allora ci deve pensare Checco. Oddio mio, che comunque bello. L'ultimissima cosa ti ho diretto, ho diretto il doppiaggio, esatto, dove tu sei un grande protagonista. È vero, non bisogna aggiungere altro. Io qui faccio il conduttore, non posso dire io, capito? No, mi no, hanno proibito, però, giustamente. Lo dico io. Dillo te io. Dillo io tu. Dillo ciao. Io tu. Ciao, arrivederci. Arrivederci, bene. Allora, stavo cominciando a percorrere la tua carriera. Nel 78 fondi insieme al bravissimo, indimenticato Gigi Angelillo, la compagnia teatrale L'Albero, con la quale sì, produce e interpreta tantissimi spettacoli. Quanto è importante il teatro per un attore, Ludovica? Per me è tutto. La voce, cioè, è lì. Anche l'odore, anche, cioè, io lo metto in prima linea, nel senso, io sono malata di teatro. Io quando viaggio, sono una grande viaggiatrice, vado sempre a vedere i teatri delle città per odorarli. Sì, è bello. Sì, l'odore dei camerini, cioè io sono pazza del teatro. Anche la puzza diventa odore in teatro. Sì, anche sì, l'odore stantio. È proprio insostituibile. Come esercizi di stile, quanto avete fatto di tournée? 20 anni. Con il grande Pannofino. Il grande Francesco. Che ormai è diventato un VIP. Sì, beh, ormai. E io non mi saluta più. No, no, saluta, non te vede, perché magari gli è calata la vista, però saluta. Quando ti riconosce saluta. Mi è venuto anche ospite, ha fatto un momento, ha replicato dal vivo il momento di Forrest Gump, del monologo davanti alla tomba della moglie. È stato più emozionante adesso che 20 anni fa quando l'ha doppiato. Si ricordava come era la abbiamo, voce? Sì, vabbè, l'ha trovata, poi era molto, l'ha modernizzata, ma è stato veramente bravo, anche sì, lui è essenziale. Erate tu, Gigi e, lui è e Francesco. Sì, è stato lanciato praticamente da esercizi di stile, perché sì, lui è stato, diciamo, gli autori di Boris sono venuti a vederlo per fargli un provino e da lì l'hanno scelto. È lo startup della lì, sua carriera, vedi? Sì, hai sì, capito? Sì. L'escalation. Non mai chiamata. Va bene, ma non è un problema. Va bene, va bene. No, non per te cui conoscevo neanche. C'ha ragione. Comunque, il teatro, l'hai detto, è la cosa importante. È la formazione base proprio per un attore, per sì, una persona che vuole sì, fare questo mestiere e quello. È la base. La televisione è cambiata, eh? Gli sceneggiati, con queste fiction. Sì, certo, ma la televisione di una volta, però io sì, non direi... è che volesse la quanto era bella la commedia del venerdì, sì, gli sceneggiati d'un tempo, sì, ma anche le fiction noi le sappiamo fare alla grande, cioè, non lo so, Gomorra, sì, In Treatment, cioè sono... Romanzo criminale con quel povero... Romanzo criminale. C'è Mecuni, uno degli autori che era Ferolocchio, l'ha detto, che bisogna nominarlo, sì, insomma. Certo. No, siamo bravi, devo dire che stiamo soltanto portando all'estero Suburra, Gomorra, Romanzo, sì, criminale, gli assassini. Sì, c'è un poliziesco dove vince la polizia. No. Cerchiamo di far capire che qualcosa funziona. Lo di qua. Spirito dell'Italia. È quello, capito? Poi dico, ma voi, sì, grazie. Sì, sì. Non è soltanto quello. E poi sei una grande doppiatrice. Con la tua bella vociona. Lo dici tu, non no, io. No, dice quello che tu hai fatto. E allora, non voglio parlare io, non devi parlare tu. Facciamo parlare Ludovica Modugno dentro un film che tu hai doppiato, bellissimo. Hai doppiato poi l'attrice che ha vinto quest'anno l'Oscar, che è Viola Davis. Se sì. Tu l'hai fatta nel Dubbio. Sì. Anche in The Help l'hai fatta. L'ho fatta anche in The Help. Era bellissimo film. Sì, anche il Dubbio, dove Philip Seymour Hoffman era il bravissimo Pasquale Anselmo, e Mary Streep era doppiata da Maria Pia Di Meo. Insomma, un bel terzetto. E adesso Viola Davis credo che la doppi sempre Laura Romano, che è un'altrettanto bravissima. Bravissima, sì. Devo dire, c'è questo ping pong fra gente brava. Io lo urlo da questi microfoni sempre. Non c'è invidia, perché no, è un'altra brava, è un altro bravo. Sì. Viva Dio. Se piano una pippa, se vuol dire, no? Sì, se allora, può dire. Allora te incazzi. Esatto. Però, non si poteva dire, però vabbè, l'hai detto. Allora sentiamoci invece una brava, che è Ludovica Modugno, su questa bravissima attrice di colore che è Viola Davis, il film Il Dubbio. Mio figlio è venuto nella sua scuola perché in quella pubblica l'avrebbero ammazzato. A suo padre lui non piace, e nella sua scuola lui non piace ai suoi compagni. Solo un uomo è gentile con lui, quel prete. E quell'uomo ha i suoi motivi, certo. Li abbiamo tutti, anche lei ha i suoi motivi, ma dovrei chiedere a lui perché è gentile con mio figlio? No. Non mi interessa il perché. Mio figlio ha bisogno di un uomo che voglia occuparsi di lui e che voglia aiutarlo ad arrivare dove lui vuole. E grazie a Dio c'è un uomo istruito e d'animo gentile che è pronto a farlo. Non può essere così. Solo fino a giugno. Caccerò suo figlio da questa scuola. E perché vuole farlo se non è stata sua la colpa? Perché questa storia abbia fine. Beh, bello. Posso raccontare un nanetto? Sì, certo, tesoro mio. Sei libera qui. Il nanetto hai detto con la tua vociona, no? Dunque io, quando doppiai Love Story... Tu eri Ellie McGraw. Eri tu. Insieme al giovane Claudio Sorrentino. Che doppiava Ryan O'Neill. Sì. Tu eri Love Story. Io avevo una vocetta acutissima, ma proprio di testa. E poi successe che facendo Romeo e Giulietta in teatro persi completamente la voce. Io, non avendo fatto una scuola, non mi sono cresciute le corde vocali, sono rimaste nane. Insomma, ma non si direbbe adesso. Allora sono andata dal grandissimo Scuri, che era un grande foniatra di tutti noi attori. E noi abbiamo gli ospiti qui, tanti come Diego Cosso, eccetera. Parliamo anche di quello, sì, di come si imposta la voce, eccetera. E lui mi ha fatto 2 anni di impostazione della voce, mi ha detto che io non dovevo respirare. Mi ha insegnato tutto e mi ha detto: ma la sua è una voce medio-bassa, non è così di testa. Lui ha fatto la voce a Gassman, ha fatto la voce a Mondaldini, cioè lui ha trovato la mia corda. E da allora doppio l'omini. Esatto. Da allora, quando telefonate la mattina a casa, risponde lei, gli dicono sempre: mi passi tua sorella, per favore? Sì. No, a me mi dicevano sempre, quando vivevo con mio marito: pronto Gigi? Dico: no, no, sono Ludovica. Sono Ludovica. Gigi. E Gigi diceva: pronto? Senti, va bene. Allora stiamo per andare in pubblicità la seconda volta, ma tanto tu rimani con noi. Dopo sei in teatro, perché sei al Teatro Marconi. Al Teatro Marconi di Roma, dove faccio La Classe. La che Classe. È uno spettacolo molto bello. Tipo il film La Classe, cioè sì, su una classe problematica, francese, sì. Sì, vicino a un campo di rifugiati, non si svolge in Italia, io faccio una rifugiata col Shador e accento arabo. No, com'è l'accento arabo? Se volete posso anche farlo un pochino, ma non mi riesce tanto bene, insomma un pochino posso fare, ecco. Va bene, lei c'ha il permesso di soggiorno, Modugno? Sì? No, Soggiorno no, io non soggiorno qua. No. Non soggiorno? Assolutamente, non soggiorno, no. No, non stai qui. No, no, io sono clandestina. Guarda, sì. Se arriva la polizia adesso al prossimo blocco. Era Ludovica Modugno che stava interpretando con intenzione araba quello che sta facendo a teatro, Teatro Marconi. Dove siamo stati anche io e Alessia a fare uno spettacolo un po' tempo fa. Per cui è un bellissimo teatro nuovo di Roma. Per cui accorrete. A tra pochissimo con Ludovica Modugno, ma già ci ha raggiunto il nuovo ospite che è il grandissimo Amedeo Minghi che vedo dall'altra parte del vetro. A tra pochissimo. Voice Anatomy. Quasi le 3 in punto, le 15 per dirla in italiano. Al mio fianco Ludovica Modugno, che stiamo conoscendola a 360 gradi, come facciamo noi con la voce, la navighiamo in tutti i meandri. Mi state a fare la radiografia? Sì, dopo ti diamo la risposta, fammi una tac e via così. Ci siamo sentiti salutandoci un momento del doppiaggio del dubbio Viola Davis, ma tu sei anche una grandissima. Hai doppiato anche Mary Strip, però. Una volta sola. Una volta, beh, è no, Mary Strip è territorio di Maria Di Meo, sì, abbiamo avuto ospite straordinaria. E senti, invece, come è cominciato il doppiaggio? Ecco, il teatro ci ha raccontato, la televisione con tuo fratello. Sempre per colpa di mio fratello. È sempre Paolo, sì. Ma che lui stava doppiando. Non è potuto venire oggi, io volevo. Però vabbè, lo chiamerò prossimamente. Lui stava doppiando un film. Allora c'era un'attrice di cinema che si chiamava Marta Tore, ma ormai credo che la conoscano soltanto nel Pleistocene. Sì. E c'era un neonato che faceva che piangeva. E nessun bambino faceva il pianto del neonato, facevano i bambini loro. Allora il direttore di doppiaggio, che era un certo Nicola Fausto Neroni, te parla già proprio. Il cognome, capisci, sì, di quanto tempo fa? Ecco. Quello che ha dato poi fuoco a Roma. Vabbè, sì, l'era del piombo. Esatto. E allora lui ha detto, ma dice, io come faccio a doppiare questo neonato? Non c'erano le colonne internazionali allora. E mio fratello dice, c'è la mia sorellina, rompeva i coglioni a tutti, che vorrebbe tanto fare doppiaggio. Mi hanno messo su un panchetto, ho fatto il pianto del neonato. E quello è pianto come neonato. Sì, quello è stato il tuo inizio proprio, hai pianto per iniziare. Sì, ho pianto per iniziare. Non è male, dopo tutto in discesa dopo. Comunque, quando dicevo prima che doppio gli uomini, non era uno scherzo, in quanto nella moglie del soldato io doppiavo un uomo. Ah, quella era la soluzione finale, insomma, che nessuno sapeva. Il direttore del doppiaggio neanche me l'ha detto. Poi a un certo punto, in una scena d'amore, vedo che si tira fuori l'arnese, sono svenuta praticamente. È vero, un film bellissimo. Bellissimo. E lui, perché poi è Neil Jordan era la regia, vabbè, forse sì. Sì, Neil Jordan. Lui aveva la mia voce e quindi c'aveva pure qualcosa in più. Poi ho doppiato un trans nei giardini nella notte d'estate di un film di Clint Eastwood, non so che mi ricordo. Di notte. Vabbè. Ma dai! Dai, se faccio un provino con te lo vinco io, dai. Sì, quello è sicuro. Ormai Viggo Mortensen lo fai tu, sì. Ha chiesto una voce più maschia e sei tu ormai. Lui, Jamie Foxx, sono tutta roba tua. Forse sono di colore colore massimo. Neri, insomma, sì, perché sì, di colore siamo tutti. Ma ha fatto capire un mio amico nero, ha fatto Pino, pure te sei di colore, certo. Cioè, siamo tutti, sei bianco, io sono nero, l'altro è giallo, siamo colori, colorati, siamo colorati. Sì, ho perso una buona occasione per stare mezzito io. Comunque, un'altra cattiva, questa bella voce, la cattiva Crudelia De Mon, Glenn Close. Sì. Vuoi che te faccia la risata? Beh, dopo me la fai, adesso ci ascoltiamo un pezzo della carica. La carica di questi dalmata. Ascoltiamo la Glenn Close, ma soprattutto ascoltiamo l'interpretazione di Ludovica Modugno. Le dispiace se torno più tardi? Mi sento la testa vuota. Perché non mi monta in macchina? Delia! Niente, Delia! Delia è morta! E Crudelia è qua! Mamma mia! Mi farò una pelliccia di tutti questi cagnolini! Chiamate qualcuno, aiuto! Voi sanato, mi siamo in diretta. Radio 24, grazie! Valerio, avvertimi quando stanno entrando. Portano via lei e mettono dentro Amedeo Minghi, però non gli stessi, perché Amedeo ancora deambula tranquillamente. Io me lo voglio sentire un altro. Ce ne abbiamo così tante di queste voci bellissime, una diversa dall'altra, perché Viola Davis in un modo, ovviamente questa Glenn Close in un altro, ma poi abbiamo una Cher dannata. Film sì, meraviglioso anche quello, che però sì, il film di Clint Eastwood è aspetta, te lo ripeto. I giardini. Te lo dico subito, ecco che me lo dettano per mezzanotte nel giardino del bene e del male. Eccala. Sì, no, sì, ma io anch'io ho un aiuto dall'altra parte, dico la verità, io ammetto i miei limiti, per cui assolutamente sono dei grandissimi collaboratori per questo. Io me lo sentirei uno Stregata dalla Luna, sì, che c'era Nicolas Cage, Cher. Posso dire una cosa sola? Che dire dunque, tutto, nell'ultimo film di Cher, Burlesque, sì, lei è bellissima, è vabbè, anche più vecchia di me. Sì, ma ho capito, c'ha degli amici dottori molto più bravi. Ecco, appunto, si è talmente tirata la ragazza che la bocca non si muove, per cui è una gioia doppiarla, perché vado sempre a sync, non ci stanno lunghe, non ci stanno corte. Capito, non però si muove. E labiali come fai? Se non ce l'ha. Non ce l'ha. Non ce l'ha, infatti parlavo un po' così. Cioè, mi paresi. Sì, che ormai c'ha la pelle così, non si può dire la battuta. La pelle è molto corta e quando chiude gli occhi va bene. Allora, noi ci sentiamo, Stregata dalla Luna, Cher, un film di Norman Jewison, se non sbaglio. Che ha vinto diretto da Renato Izzo. Dal grande, da indimenticato grande. Renato Izzo. Teo Bellia faceva Nicolas Cage. Sì. Che poi invece rimbalza su, su Anselmo. Su Pasquale Anselmo. Vabbè, sì. C'è sempre Pasquale nei tuoi film, eh? Sì, io no. Io ci sono quando tu dirigi, però questo è importante. Allora, ascoltiamola questa Cher ancora prima di rifarsi. Dio, che freddo. Sembra che deve nevicare. Sai, mia madre se lo sentiva. Era sicura che mio padre aveva una donna. Che roba, tette volgarità a buon mercato. Ma chi sono io per parlare? Che te ne importa? Hai il coraggio di dirmi questo? Mi stai facendo sentire colpevole. Lo sei, Ronnie, come lo sono io. Di che cosa? Perché vuoi svendere la tua vita? Perché stavolta non l'hai voluto aspettare? Io stavo qui, ma non è mai venuto. E io allora? Sei in ritardo. Ma questa è casa tua. Esatto. Mi ci hai portato apposta, vero? Sì. Noi due abbiamo fatto un patto. Tu hai detto che se venivo con te all'opera mi avresti lasciato in pace per sempre. E io allora ci sono venuta. Bene, adesso io sposo tuo fratello e tu mi lasci in pace per sempre. Chiaro? Te ricordi, cioè, bene, sì. Un'anticchia di dialetto siciliano. Ma poco Renato Izzo non voleva che esagerassi. No, ma è vero, perché questo qui è la sporcatura poi delle persone italo-americane, sì, il broccolino, come il bravissimo Ferruccio Amendola ha saputo interpretare, sì, poi quella sporcatura, sì, che ha fatto in grandissimi film, che gli è valso anche l'inizio importante. Un giorno faremo una bella puntata intera su, sì, Grande Amendola, perché c'è un passaggio bellissimo, come quando ha fatto Sozzo su Un uomo da marciapiede, sì, veniva dal Laureato, il film è tutto delicato, e c'è con Gino La Monica, sì, delicato, sì, anche lui, e poi ha passato su quel film, anche Gino mi ha raccontato il film, poi il provino l'ha vinto giustamente Amendola, e lì è stato l'inizio della sua grande carriera. Una grande carriera, perché andava di moda l'antieroe, insomma, sì, la sporcatura, il De Niro, eccetera, eccetera. E bisogna dire che anche Alessia Amendola è bravo. Bravissima. È solo che mi fa un figlio al mese e non riesce a venire ospite. No. Capito? Sì, e non riesce a venire ai turni, manco. Esatto, basta, la sì, sera, fermatevi un attimo, guardate la televisione, andate a teatro, al cinema e torna a lavorare, Alessia mia. Perché ogni volta chiamo, amore, scusa Pino, ma c'ha 2 mesi? Come c'ha 2 mesi? È il quarto, c'ha sempre 2 mesi tuo figlio. Va bene, poi c'è stato un altro, vediamo se indovini che film hai fatto. Un film è bellissimo, un capolavoro, ha vinto tantissimi premi. Allora, Adriano Giannini doppiava benissimo Christian Bale, devo dire pure Adriano sta navigando bene. Massimiliano Manfredi era Mark Wahlberg e tu sei stata una strepitosa Melissa Leo, un'interpretazione che gli ha valso un Golden Globe e un Oscar. Sì. E la dopo ce n'è stata da meno. The Fighter. Ah, lo vedi che sì, l'età. Però non l'ho mai più doppiata dopo. Vabbè, ma tu l'hai fatto dopo ha vinto l'Oscar. Vabbè, certo. Che te frega? Che mi importa? Il resto è noia. No, perché uno si affeziona poi all'attore, però siccome all'attore, sono all'attrice. Dai, beh, vedi tu, che parlo al maschile ormai. No, a Ludovico, è santa miseria, ma te conosco. Ma hai fatto cominciare con La principessa sul pisello? L'ho capito, no, col, sul, santa miseria. Poi La moglie del soldato. Ma guarda te, la prossima volta la invito dopo mezzanotte insieme a Cruciani. Ascoltiamolo un momento di Melissa Leo in questo bellissimo film The Fighter. Che qual è il problema? I problemi. Che problemi? Che problemi? I problemi come? Che come problemi? Avanti? Come quello che tu non arrivi in orario agli allenamenti? Come quello che lui deve venire a cercarti dove vai a fumare il crack quando dovresti essere all'aeroporto? Scusa tanto, non so chi sei né perché parli. Sono Charlene. Ci hanno presentate. Noi stiamo insieme, dobbiamo presentarci di nuovo. Ciao, sono Charlene. Ciao, sono Charlie. Basta, noi stiamo insieme. Che vuoi fare, Mickey? Ascoltare una di MTV che lavora in un bar? Che ne sa lei del pugilato? So, per esempio, che andare a Las Vegas ed essere pagato per allenarsi tutto l'anno sembra decisamente meglio di quello che gli fate fare voi qui. La lasci parlare così a tua madre? E dai, Mickey! Ve l'ho detto, stiamo insieme, è la mia ragazza e la voglio qui. Ho fatto tutto per te. Tutto quello che potevo per te, Mickey. Poi arriva una ragazza di MTV. Senti, piantatela con questa storia. Eccolo qua, altro ecco. Bellissimo momento. Bellissimo, facendo, bellissimo film. È bello parlare di una persona e tutto quello che ha fatto in vita. Hai capito? Cioè, che ci puoi parlare? Se vuoi che mi ritocchi le... No, ma lo dicevo nel senso che è bello ripercorrere. Perché a me le cose le odio quando uno premia la carriera o le cose eccetera. Invece no, tu domani già stai a Chioda, no? Io guarda, voglio recitare fino a 95 anni come minimo. Come amico, ma a Borboni come... Sì, quindi vi romperò le scatole. Tanto, sì, sì. Devi tornare ospite. Con i 70enni che... Adesso siamo Ludovica Molun e tu lucida, meravigliosamente lucida. Sei stata anche Angelica Houston nel film L'onore dei Prizzi. Sì, altro sì. Chi era il direttore? Chi ti ha scelto? Renato Izzo. Grande Renato. Quanto manca. Io ho ereditato da lui, cioè lui mi ha fatto fare per la prima volta Cher, quando ancora aveva il vecchio naso, che era Mask il film. E mi ha fatto fare per la prima volta la Houston e poi me le sono portate appresso. Certo, ma perché questa voce, questa maschia pure loro con la voce. Insomma, è una bella lotta. Davvero? Chi si sveglia prima la mattina? E poi sono le serie TV che hanno cambiato un po', come è stato il periodo degli anni Ottanta, delle soap opera, eccetera, sì. Che hanno dato sì il lavoro, tanto, ma è cambiato proprio la tendenza. Adesso le serie TV hanno preso il posto del cinema. Sì. Tu hai fatto delle bellissime cose. Orange is the new black, scusate, dall'altra parte c'è una ragazza che viene da Los Angeles e mi sta ascoltando in questo momento. Aiuto. Con questa pronuncia, no, è distratta, ringraziando il cielo. Io doppiai Dallas, anche delle prime serie. Sì, raccontami queste serie, dove hai cominciato? Dallas, chi eri in Dallas? Eri lui, no? Pamela. Ah, eri Pamela. Pamela, perché Pamela era proprio quando loro pronunciano. Sì. Eri Pamela, e poi come è continuata la carriera, non ti ricordi? Poco, mi ricordo poco, anche perché poi coniugando col teatro, anzi facendolo tanto, le serie non le potevo fare, per cui... Certo, non ti puoi legare a un personaggio che dura tutto l'anno. Che faccio quando sto in tournée? Sì, prendo l'accelerato da Matelica a Roma. È vero, da Vibo Valencia, che costa più quello che altro. E adesso che succede? Teatro? Ti sei fermato un attimo? No, oppure... teatro sto facendo questo a Teatro Marconi. Sì. E dopo non ti fermi poi, più. Dunque, farò a novembre... Fai in tempo, alle 5:30 è lo spettacolo. Che sì, ora sì, faccio in tempo. Sì, dai. A novembre riprendo uno spettacolo che ho fatto in un festival per 2 giorni. Io e Paila Pavese, altra grande doppiatrice e attrice. Che facciamo due vecchie lesbiche che fanno coming out. Che bella cosa. Sì. Poi con la tua voce è perfetta. Alla cometa. Due belle vocioni. Sì. Capirai, è vero. È molto divertente. Beh, carino, sicuramente sarà ironico, vero, ma ironico. È un testo scritto nuovo? È un testo inglese nuovo. E l'abbiamo fatto in una rassegna di drammaturgia inglese. È piaciuto moltissimo al direttore della Cometa, teatro che tu conosci perché ci sei stato molte volte anche con Alessia, mi pare. Sì. E ha detto lo voglio, ci ha dato 3 settimane a novembre. Ma che bello. Adesso c'è la prossima stagione. Prossima stagione. Adesso doppiaggio? E doppiaggio adesso. Mi informo perché voglio sapere se. No, adesso devo dirigere un film. I cui protagonisti sono due donne, Catherine Deneuve e Catherine Fort. E allora non c'è posto. Va bene, io cerco di rimediare al lavoro in qualche modo la domenica, ma non mi riesce così. No. Adattato da Paolo Modugno. No, stavolta no. Ci hai fatto fuori a me e a tuo fratello. Hai capito? Tutte e due in una botta. In una botta solo hai perso 2 amici e un parente che ti ha fatto cominciare questo mestiere. Sì, vergogna. Sì. Allora, rimani, mi voglio sentire anche un pezzo, La strega delle Lande, tratta dal Castello Errante di Howl, un film di Miyazaki. Sì, esatto. Ascoltiamo quello e poi facciamo entrare il prossimo ospite che rimarrà insieme a te e poi tu andrai di corsa a teatro e te devi sbrigare. Sì. Stai in macchina? Coi mezzi? No, c'è la maratona. Allora non si può usare la macchina, io sto con la metropolitana. L'ho fatta la decorsa fino a Viale Marconi. Sì. Sentiamo questo e andiamo in pubblicità con questo, dai. Una bottega mediocre, dei cappelli mediocri. E anche tu sei alquanto mediocre, vero? Questa è una modesta cappelleria di quartiere. Prego, vada pure, per favore. Mettersi a rivaleggiare con la strega delle Lande. Un bel coraggio. La strega delle Lande. Di questa maledizione non potrei parlarne ad alcuno. Salutami, Howl, eh? Voice Anatomy. Bentornati, signori miei. 15:15 è perfetto, non potevo prendere la linea al momento migliore. Mi ha raggiunto al mio fianco, sono spostati di qua. Alla mia destra c'è sempre Ludovica Modugno che sta aspettando un momento per andare a teatro. Un altro quarto d'ora ce lo regali. Metti vicino al microfono, poi fai sì. La doppiatrice, santa. Ma guarda, dall'altra parte questo signore straordinario che è venuto prima di noi in radio, pensa alla puntualità, cioè la grande professionalità. Quanti anni festeggi? Di carriera, intendi? Di carriera, no, di vita no. Di vita, ce n'è qualcosa in meno di di Ludovica. Che stai a dire? Non lo so. Io adesso posso dirlo lui quando è nato. Lui è nato il 12 agosto del 47. Tu, Ludovica? Lo vedi? Non me lo dici, io posso... Guarda, lo dico perché tanto basta andare in internet. Esatto. Del 49, quindi sono più giovane di 2 anni, vai. Ecco, hai capito. Però no, è un grande onore stare con Amedeo Minghi. Perché Amedeo Minghi, grazie. L'ho amato molto come cantante. Quando... Sì, come attore? Meno come attore, no. Non l'ha fatto. Ah, stavo rimanendo male. No, non l'ha fatto l'attore. No, anche se faccio molto teatro, questo è vero. Canto molto teatro, esatto. Però devo ovviamente. È un performer. C'è però qualcosa di vero in questa cosa. Perché io nei miei spettacoli teatrali non mi limito a cantare. No, purtroppo. No, parlo. Leggendo monologhi, cose. Quindi insomma mi do da. Sei un performer. Sono un performer. È un performer molto bello, però io voglio cominciare con una canzone che secondo me te ne rappresenta tante, rappresentano la tua storia. Tante, sì. Però questa una... che pensi tu e che penso io, che credo che sia la stessa, certo, che pensiamo, è la mia canzone manifesto, insomma. Ma certo, ci deve essere. Qualcuno sfugge dalle cose manifesto che fa un attore, fugge da quel tormentone che gli ha portato la fortuna e la notorietà, un cantante fugge dalla canzone che lo racconta più, invece no ma è un punto fermo, magari secondo me. Capacità di farne altre. Ma tu ne hai fatte tante, sì, potrei cominciare veramente tante. Con altre 4, 5, 6, 7, 8, però voglio cominciare con quella perché 1950 è veramente bella e voglio ascoltarla tanto. Grazie. Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Seranella, in questo vento di mare di pini, nel nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio all'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Seranella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi. L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie e i nostri giorni di primavera, che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 1950. Che bella, questa è poi la reinterpretazione che hai fatto della questa tua nuova, bellissima. Sì. Questa è nuova, infatti voglio presentarlo bene il tuo album, perché non... tu sei qui perché sei un caro amico, ci stimiamo, ci vogliamo bene, io ti ho incastrato questa domenica con tua figlia, amici, beh, chiunque, hai portato quelli che stavano a pranzo con te praticamente, sì. Ormai devo andare da Pino, venite tutti qui con me. Se mi metti una musica di sottofondo, Ludovica, io lo leggerei come se fosse la presentazione di un trailer di un film. Quest'ultimo disco, che più che un disco è una collezione, cioè ti dai uno scaffale libero per prendere. Sì. E allora una musica romantica, eccolo. La bussola e il cuore, questo è il titolo. La bussola e il cuore. è articolato in tre lavori ben distinti: la bussola, il cuore e mappe. La bussola è il nuovo album, a 11 anni di distanza dal precedente, 10 brani, due dei quali firmati a quattro mani con Mogol, che raccontano un viaggio nell'anima dove il fascino è più nel viaggio stesso che nella meta, per dare poi nuova intensità a brani che, per sorte, sono diventati nel tempo dei classici e peculiari di un percorso. Ecco, il cuore, che raccoglie 5 classici del repertorio di Minghi, totalmente riarrangiati e rivisitati in studio, e brani inediti che appartengono al suo percorso di fede. Poi c'è Mappe, che è il terzo CD, il più trasversale, racchiude 20 brani registrati tra i primi anni 70 e la prima metà degli anni 80. Incisioni originali in cui si percepirà, soprattutto in alcune, la puntina che tocca il solco del vinile. Rarità, inediti, provini, curiosità, un mondo di canzoni mai pubblicate, alcune scritte per altri artisti, altre che invece hanno trovato spazio nel repertorio di grandi interpreti, altre ancora tralasciate per logiche discografiche del tempo, senza dimenticare i provini di alcuni dei brani più famosi di Amedeo Minghi. Beh, bellissimo. Che lettura. Ma adesso, che lettura meravigliosa. Ma adesso, se non te vai a comprare La bussola del cuore di Amedeo Minghi, presentata così. Con questa voce a questa... Ma dai. Dai, ci sta. Poi sono tre CD, ma sono anche vinili, tre vinili, sì, ecco. Hanno, ma come fanno a entrare tre vinili? Perché hanno fatto una confezione, purtroppo non hanno fatto un triplo, perché effettivamente diventava una cosa bellissima. Allora hanno fatto due album, li hanno ficcati dentro come? E uno in uno, quindi, però adesso si fa così. Anzi, insomma, secondo me, quando sono tre CD normalmente sono sei vinili, perché c'entra meno cose in ogni facciata. Sì, però no? Capito, è tutto quanto fuori standard, ormai siamo tutti standardizzati, ogni cosa che facciamo. Tu sei fuori standard. Io sono fuori standard sempre. Se ci avete una libreria libera ancora, potete andare a comprare La bussola e cuore, perché c'entra. Che grande interprete, Ludo, che bello specchiarsi in voi grandi professionisti, che ci siete ancora, non avete fatto delle scorciatoie. No, ci siete, nel senso, fermati, non da quel lato, diciamo artisticamente. No, nel senso, perché lei prima parlava di cose che non aveva. Io quello che volevo dire è molto più bello. Ho detto, non avete fatto dei talent, scorciatoie, cose eccetera. Non ci hanno detto di no. Esatto, non vanno preso, non c'erano, non ci dovevano essere. Cioè, avete investito nella vostra carriera e c'è qualcuno che ha investito nella vostra carriera, nella credibilità che avete dato, e uno va avanti così. E poi non vogliamo andare in pensione, no, vero? Ma non invece è impossibile. Io sono in pensione già da 10 anni. Anch'io. Ma comunque continuo a versare. Infatti l'EMPAS mi deve moltissimo. No, l'INPS adesso ormai non è più, ormai manco l'EMPAS. L'EMPAS è entrata più niente, devi cominciare con l'INPS, devi continuare a lavorare e fare un 6 album quest'altr'anno, vanno a parte. E tu devi continuare a doppiare, andare a teatro di corsa. Senti, invece, visto che abbiamo parlato dell'ultimo brano, abbiamo cominciato con la canzone Manifesto 1950, riarrangiata, devo dire, magistralmente, da vero attore. Perché sì, era da crooner, lo raccontavi e la cantavi. Beh, sai, che era ricantato dopo tanto tempo, dopo averla cantata migliaia di volte, quindi si dà una lettura ovviamente diversa, no? Certo. Nel tempo, per forza di cose. Poi questa volta c'era un arrangiamento vero e proprio, con tanto grande di orchestra. Ma perché la canzone, così come è nata, come l'avete ascoltata fino a poco tempo fa, in realtà era un provino. Dove io suonavo la batteria. Tu sì, suonavi la batteria, cantavi? Perché, no, perché era un provino, c'è una batteria lì, beh, butto io una cosa e feci registrare questa batteria. Poi non siamo mai riusciti a ritrovare quell'atmosfera. E hai mantenuto quella? E rimandato quella, non c'è neanche il basso, niente. Non c'è nulla. Ma dai! Se veramente, se l'ascolti non c'è nulla. Ma guarda, sono le cose migliori che nascono così, Ludovica, quando dici buona la prima, anche lì, dici. Quindi, la fai al volo senza averla vista. Questa canzone, ecco, lanciata nell'83, che arriva ultimissima a Sanremo, dall'altro, scartata così. Beh, ma sempre così, no? Sempre così. Beh, spesso, diciamo, ricordiamoci spesso, pure del zucchero e tanti altri. Tanti, la lista è lunga, la lista è lunghissima. Ben venga. In realtà è il primo arrangiamento che conosce questo in tutta la sua vita. Insomma, che, insomma, sono passati 30 anni. È una bella ragazza, 83. Insomma. 83, sì, sono 17, 34 io anni. Io scrissi con Gaio Chiocchio, che purtroppo non è più con noi, grandissimo poeta, nell'82, sì, quando eravamo campioni del mondo. È vero, è per questo che nella seconda strofa diciamo: è tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto, che bello effetto al mio cuore. Perché il pallone sì, era senti protagonista. Sotto che metafora l'ha raccontato, come pretendi che uno si ricordi? Dopo me la ripeti piano piano com'è la strofa per capire che eravate campioni. È tondo quest'anno è come un pallone che sì, tiro diretto e che bello effetto al mio cuore. Capito? Eravamo campioni del mondo così. Se vuoi te lo posso anche cantare. Dai. Aspetta, com'era? Te è tua, Amedeo, è tua. Io non te posso accompagnare. Quest'anno è come un pallone che tiro diretto. Che bell'effetto ha nel mio cuore. Hai capito? Sorella, quei soldi, cravatte, vestiti di fiori e una vespa. Percorrere insieme al mare. Era Minghi a cappella. E si può dire a quest'ora. Sì. Io però approfitterei di questi ultimi minuti. No, chi insieme a te tu rimani fino alla fine. E mi ascolto invece dalla canzone Manifesto 1950 alla canzone che racconta invece questo nuovo album, questa canzone inedita, una delle due che abbiamo scelto. Ed è, sì, che è un figlio di questa, perché poi 1950 in realtà artisticamente parlando ha figli. Questa, certo, è una figlia legittima di 1950. E si intitola Com'è bello il mondo. Ed eccola. Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa il solletico sentirti vicino. Oh vita mia, come sei bella così, con tante immagini che ti disegna il sale, e ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. C'è stato un tempo in cui non l'avrei detto, avrei deriso un uomo tanto dolce, un uomo come me. Lasciarsi andare ad ascoltare il proprio cuore sembra difficile, e infatti è così. Mia, ci siamo detti di sì, o forse niente, non ricordo, ma sei qui, e ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Fra noi che tanto amore tanto c'è, fra noi che più di questo non si può, fra noi non ci diciamo più il nome, ma ci chiamiamo amore e camminiamo insieme. Amore, amore, com'è bello il mondo, gira insieme a tutte quelle stelle, a quelli come noi, e sta passando un altro giorno insieme a te, anche stanotte non potremo dormire. Ah, vita mia, dovremo andarcene via, ma ride il mare e questa luna è ridi tu, e ti amo, ti amo. Bello il mondo, questa. Vai, vai, tu continua, la sai, è tua. È tua questa. Vedi, questo non si. È vero che è figlia, ma è tua figlia questa, non è figlia del 1950, è tua figlia. È figlia nel senso che appartiene a quella. Quella tradizione, ma uno ricerca sempre quelle sonorità, no? Dice, ma c'è una come 1950, c'è una come l'immenso, c'è una come vita mia. Facendo questo lavoro, questo mestiere, chiaramente ci sono come dei filoni, no? Per cui scrive le serenate, le canzoni più ritmate. Le sonore, è uguale Ludovica, fa un doppiaggio su un film, cioè, è la sua voce che poi cambia a secondo del momento che deve utilizzare. E allora andiamo un attimo in pubblicità e torniamo con sempre Amedeo Minghi e Ludovica, che ci saluterà perché andrà di corsa a teatro. Deve andare in mezzo alla metropolitana. Ma non so, c'è la Maradona a Roma, per cui va di corsa. Ludovica, 68 anni, dai, vai, dai, ce la fa bene con qua schiena che c'ha oggi. Lasciamo stare, a tra pochissimo, amici miei, Voice Anatomy. Eccoci qua. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, 15:33 minuti e una manciata di secondi. Ludovica, volevo salutarti in diretta. Vai di corsa a Teatro Marconi, sì, a fare questo, la classe. Sì. Sbrigati. Sì, mi sbrigo e con la maratona sarà un po' difficile, ma insomma... Mettiti un numero dal petto sul petto e vai. E vado, e fatti aiutare. A un certo punto fai finta di svenire. C'è comunque il 118 che ti aiuterà. E ti porterà, e dici dove vai? Al Teatro Marconi, non all'ospedale San Camillo, al Teatro Marconi. Allora, questa è una piacevolissima trasmissione. Grazie. È veramente bello parteciparvi. È bello, ma se non c'è il teatro rimanevi fino alla fine qua a Medeo Minghi. Certo, peccato. Però bene. Devi da andare. Devo andare. Puoi alzare anche adesso, puoi anche fare un po' di rumore mentre vai. Che se è il bello della diretta, come sì. La papera che ho preso all'inizio. Ma che papera, smetti, come fai a ricordarti questa cosa? Ti ciao do un bacio, Ludovica, grazie. Arrivederci. Faccio il rumore della cuffia che si toglie. Esatto, che si appoggia. E ovviamente, allora... insomma, gli auguri come facciamo, come ci diciamo merda, noi. Merda, tantissimo. Oppure in bocca al lupo e si risponde viva il lupo adesso. Viva il lupo. Sì, è cambiato, perché giustamente... Ah, sì, perché c'è perché chi... fai l'amore? È vero. Sono animali meravigliosi. Io e te siamo divisi questo derby martedì. Io e Amedeo siamo divisi. Vabbè, però c'è ciao, la fede. Ciao Ludovica. Ciao Ludovica. Allora, dall'altra parte chiudiamo, pure Valerio chiudiamo la pensa. Chiudiamo la porta. Sì, chiudiamo la porta. No, ma il rumore che sentite è la schiena di Ludovica, tranquilli. Arrivano tantissimi messaggi, grazie, vi ringraziamo. C'è un altro che deve l'affermazione della scorsa settimana, sì, dobbiamo accettare la multiculturalità, ma assolutamente sì, amico mio, ci mancherebbe altro. Vabbè, lo facciamo. Lo ribadiamo, non è una cosa che dobbiamo ribadire, è così e basta. Abbiamo cominciato con te saltellando da 1950 all'ultimo brano, bellissimo devo dire. Bello, siamo... come sì, tenero. È proprio figlio. Nella sua apparente semplicità. Le cose semplici, le cose più complicate. Sono più complicate. La semplicità, la gente deve leggere sempre la semplicità. Deve sembrare che tutto accade per caso, che stai suonando quella musica in quel momento, che stai recitando quel brano in quel momento, ed è quella la grande preparazione di un grande artista. La semplicità. Beh, ci si arriva, lo sai, queste sì, cose. E la semplicità. Con il tempo ci si arriva. Asciugare tutto. Sì, asciugare e tagliare, come faceva Toscanini che tagliava le partiture intere ai musicisti, un grande coraggio. Facciamo presto. Hai capito dove andava via a cena? Adesso faceva Toscanini, non possiamo fare noi. Toglieva intere parti a tutti quanti. Diciamo, questo è troppo lungo, togliamo. Certo. Andava sempre tutto di corsa. Tu fai così, no? Tu sei più tranquillo, Amedeo. Beh, sì, diciamo rispetto a Toscanini. Rispetto a Toscanini, sì, non tagli le parti all'improvviso. Ho visto, fa le prove. No, no. Anzi, dai spazio a tutti. No, do spazio tutti quanti, anche se devo dire però non è tutte fiori e rose, no, certo, quello sicuramente qualche spina, perché insomma durante le prove poi sai ci sono dei momenti non nei quali insomma un po' senti, visto che questo raggiungere il traguardo ci sta, dai. Poi lo sai, visto che la tua carriera è veramente è una carriera da è d'oro, no? È d'oro, 50 praticamente anni. Sì, dovrebbe essere sono nozze d'oro con la tua carriera. Sono nozze d'oro con la tua carriera, con la musica, sì, con la poi musica, non so, con la moglie pure magari, non lo so, ma però no, assolutamente. Per cui andiamo nel 1970, il primo grande successo è stato il 76, che è l'immenso, sì, non voglio sbagliare. Esattamente, il primo successo, diciamo alla fine è il brano più importante, perché in realtà io all'epoca scrivevo canzoni così, però mi dicevano che facevo canzoni troppo complesse, con troppi accordi, troppe parole. O dicevano pure a Mozart la stessa cosa, troppe note. Troppe note. Dicevano troppe note a Mozart. A me dicevano troppi accordi, troppe parole. Quindi allora, una mattina mi sono svegliato, ho fatto un brano con due pezzi. Con due accordi, scusami, con due accordi do e fa, che poi diceva giustamente anche la Totta Pietruccio e di Critico Dombaghi, cioè col giro de do, se sei bravo riesci a farne tanti. Beh, Stand By Me è un giro, insomma, quello è la un più giro. Grande, la più bella canzone di tutti i tempi, hai capito, la cantano i bambini, ma sai, guarda, è una cosa incredibile, è un altro discorso sulla semplicità. Al conservatorio studiano Mozart e Bach, capito, cioè, si parte dai più grandi proprio perché sono talmente grandi che i bambini lo possono ci sono proprio i libricini anche. Libricino. Dove spingono, abbiamo un figlio di due anni, c'è il libricino di Mozart e Bach, e spinge il pulsantino e quello che fa e ti arriva, entra dentro. E così insomma scrisse questo brano con due soli accordi, vediamo come va stavolta, perché dicevano sempre troppe note, troppe parole. Abbiamo un successo europeo enorme, straordinario, allora sì. Forse puoi qui fare questo mestiere. Qui leggo anche, se ne contano 15 versioni nel mondo e milioni di copie vendute. Sì, beh, 15 versioni. Sono anche molto di più. Anche di più. Sì, cioè, sì. In thailandese è l'immenso. Ma se in thailandese non lo so, però sicuramente in qualche lingua orientale c'è. Di sicuro c'è. Sarebbe bello cercarle con tutto quanto. Non tanto se mai impazzire no, adesso ma col fatto che lanciamo la ricerca Fans Club, miei di Primula Fans Club, qualcuno trova sicuramente. Ma certo, se sai, io qualcosa. È bellissimo, ma. Allora. Allora, fate l'1-1-8 e raggiungete Ludovica Modugno e insieme c'è Amedeo Minghi che sta cantando in cinese, forse in una lingua improbabile. No, non lo so neanch'io, però è bello. No, questo era... Signori, l'autoironia salverà il mondo. Ma se ma non quando c'è mai quella, prendi su, uno non si deve prendere sul serio. Uno poi che nasce a Roma fa, se no, anche, c'è anche oltretutto, questo, esatto, che, oltretutto. Non solo siamo romanisti. Cioè, aspetta, non mischia tutto. Che devo fare? No, io si vive, in una, lo dico ogni puntata, si vive in una società multilaziale, Amedeo, per cui bisogna, cioè, prima parliamo di multiculturalità, parliamo anche di questo. No, questa è una cosa che vale soltanto per te. Hai capito? Ecco, guarda, eravamo amici fino a 2 secondi fa, guarda, oggi abbiamo giocato tutte e due, abbiamo vinto tutte e due, mo prima il derby c'è la pausa, no? Fino a martedì stiamo tranquilli. Un piccolo break. Allora, visto che tu l'hai accennata in sudcoreano prima, l'immenso, noi ce l'abbiamo, visto che c'è l'ultimo album bellissimo. Nella lingua in italiano. Italiana, nel busto del cuore, è compreso l'immenso, non poteva essere. Beh, sì, forse è il brano più importante, perché tutto sommato, se sono qui... Se tu devi scegliere un brano da portarti sull'isola, che è 1950, l'immenso, vita mia, chi ti porti? Non mi porterei l'immenso, perché l'immenso è quello che ha dato il là alla mia carriera. Non l'avrei fatto neanche nel 1950. Certo, è venuto prima che quello 80. Esattamente. Sentiamoci allora l'immenso. E l'immenso è questo amore mio, ed il mio cielo è l'anima, è il mondo che vorrei, che immaginai, è quello che non ho, non ho mai avuto mai. Restare solo, a ridere di me, e non sapere cos'è, cos'è un confine, l'immenso, l'immenso. L'immenso è lei che vuole me, l'immenso è lei che sa nascondermi. Continua, va? Canta insieme a te. E che non ha voluto mai. Minghi canta Minghi. Bello. Portarmi via. Hai preso un momento dove c'è una nota più alta? No, però è bella, ha fatto un controcanto naturale. Sta delle mie lacrime. Vedi che si sente che sei tu e non hai fatto giustamente. Fa vedermi piangere. Oh, voglio essere presente a un tuo concerto, santa miseria. Voglio presentarla io. Vabbè, adesso vado, facciamo queste. Se ne fai una, Roma. Io prima la leggo. Quanti che ti dico? Leggo prima la canzone che vuoi fare, non tutto, ovviamente, un pezzo, l'inizio magari, e poi ti tre in voce. Va bene. Dai. Venduto. E in amicizia. Allora, facciamo quando riprenderemo il tour. Adesso lo finiamo. Le date ce le ho qui. Allora, adesso però, stiamo finendo il tour. Questo però, è gennaio, eccetera. Dunque, marzo, l'hai fatto pure queste. Sono fatte tutte, ma sono rimaste. Aprile a Napoli, 10 aprile a Napoli, il 10 al Teatro Diana. E il 27 a Gaeta. A Gaeta, al Teatro Ariston. E dopo, Roma? E Roma, niente, faremo in autunno, riprenderemo le nuove facciamo tappe. Facciamo Sistina, dove facciamo? Dove andiamo? Vediamo Chione, Sistina. A dicembre ho fatto il Brancaccio. Un altro piccolo teatro di Roma, di 2000 posti, sì. Adesso in autunno vediamo quale fare. Però sì, questo è uno spettacolo che tra l'altro è nuovissimo. È bellissimo. Non l'ho mai fatto. Grande orchestra? No, siamo un gruppo, c'è due attori che cantano, ballano, perché il sottotitolo è concerto spettacolo e queste canzoni le vedremo parlare, cantare, ballare. No, allora ci sta che io mi alzi all'improvviso a una canzone che entri dalla quinta e recito un momento della tua. Sì, certamente. Quale può essere? Vita mia? Sì, è vita mia. La mia, come senti? Oddio, mi sfugge il nome della canzone. Vita mia, vita mia. La vita mia, sì, mia. Era giusta, per un attimo pensavo. Ma chissà, questa magari è letta da te, magari. Ma dopo provo a leggere un pezzo e poi la mandiamo, vediamo che succede. Vediamo che succede. Va bene, allora no, abbiamo ancora un minuto prima di andare in pubblicità, vero? Perché mai. Cioè, abbiamo tanta pubblicità, va benissimo, siamo contenti. Però c'ho pure un ospite, deve parlare tanto. Io devo Santa miseria. No, dobbiamo chiacchierare e ascoltare. Dobbiamo... L'immenso l'abbiamo ascoltato. Però tu cominci con una cover. Leggo qui, i miei autori sono molto attenti. Alla fine del 66. Tutto un programma poi, perché The End debutto... of the Rainbow, la fine dell'arcobaleno. Manca. Sì, sì, io ho iniziato dal contrario. Neanche cioè, Over the Rainbow, no, The End of the Rainbow. Alla fine. Che era una cosa, che era un successo di Earl Grant. Earl Grant. Testo tradotto da Mogol, con il quale poi collabori. No, anche nel... Mogol no. Era retro, tutti scrivono retro. Questa cosa, ah, ma invece. No, perché Mogol era specializzato in retri. Nella DB, che normalmente adesso si utilizza per fare un complimento a una ragazza, però invece questo. Prima il lato B di un disco era quello ma meno. Ma la DB una volta erano quasi molto spesso. Cioè, il successo non, vero esatto non funzionato meglio vero. La DB anche molto di Battisti spesso, che il lato A tantissime volte è vero tantissime volte sì. E lui si era occupato del lato B qui nei primi tempi si occupava del lato B perché parliamo di 50 anni fa quindi esatto era, che sognavi in quel momento quando hai fatto questo disco in quel momento che l'hai inciso a ma cosa guarda oggi? Io pensavo che i miei 18 anni sono andato da Stelvio Cipriani che era grande Stelvio ma, okay. Sì, ma era un ragazzetto che stava lì ad ascoltare a far suonare il pianoforte per i ragazzi. Io sono arrivato lì con i miei espertiti di Endrigo, di Tenco, di Rauz, di Paoli, quelli erano quelli che io cantavo, che cantavamo tutti quanti, e lui suonava e poi è arrivato, ha detto ferma, aspetta un momento, ha chiamato un altro, era Claudio Sungiust, poi ha chiamato un altro, era Durante, insomma io dopo un mese ero a Milano a registrare in questo disco che era The End e ho preso per la prima volta nella mia vita il primo del quartiere a prendere l'aereo. Il primo del quartiere a prendere è bellissimo. Allora signori, restate con noi. Ancora non è il blocco vero del GR, se non voglio sbagliare, vero? Il prossimo invece sì, facciamo pure un piccolo collegamento con Giada Desideri insieme qui che è un amico. Saluteremo anche. Assolutamente sì. A tra pochissimo. Voice Anatomy, Amedeo Minghi. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, scusate, stavamo facendo la foto di rito, normalmente la facciamo all'inizio, invece l'abbiamo fatta adesso con Amedeo per metterla sul nostro sito Facebook, che state anche voi inondando. Tu come stai combinata a siti, a social? Frequento. Lavoro, social. Sì, sì, ho detto anche che siamo qui, ho pubblicato. Il fan club c'è? Il fan club c'è, tutti i social, abbiamo tutto quanto, un gruppo di ragazzi che... Chi ti aiuta in questo? Sei... Perché noi non ci abbiamo, io non è che sono piccoli di te, però... No, io invece non vado... Non siamo social, poco dai. Fa mi sono fatto fare una foto, c'è sul mio Facebook, la pagina Facebook, tra poco andiamo in onda e ci sei anche tu. E ci sono anch'io. Sì, non hai visto la mia pagina Facebook dove ho pubblicizzato ancora, l'evento? Ancora non l'ho visto, sto qui con te, stavo prima facendo l'intervista. No, ma l'ho messa tre giorni fa, qualche giorno fa. Qualche giorno fa, scusa, perdonami, non ti ho seguito. Dopo ti faccio vedere. Non siamo amici, si vede. non ci frequentiamo così. Senti, mentre stiamo chiamando Giada Desideri, io mi ascolto un altro brano della Bussola del Cuore, un'altra seconda. Dove vai ad andare, sulla bussola, sul cuore o sul mappe? Dove sei tu? Dillo tu, è bello questo tu devi dare praticamente una mappa per dare la mappa del disco. Beh, che hai fatto il disco ce l'avete una cosa da no, le mettiamo in crisi. Una cosa da mappe vorrei fartela sentire, perché queste cose che tu hai menzionato poco fa, presentando il disco, no? Nel terzo CD ci sono queste strane cose inedite. Ci sono delle canzoni anche che sembrano improbabili, scritte da me. Invece era allora, insomma, Provini. Erano canzoni che hai fatto per altri, oppure sempre per te, Provini farti per te? Questa io erano canzoni anche fatte per altri. Alcune fatte con Califano, ho lavorato con grande Califa. Beh, con Califa abbiamo scritto tantissimi brani per i Vianella, che sono nati con un mio con una mia canzone, voglio il canto di una canzone addirittura. Ma dai, sì, sì, sì, che sì. Belli questi featuring, come li chiamano gli americani, queste sì, collaborazioni. Sono bellissime, sì, sì, ma devono, sempre uno dovrebbe farlo. Sempre collaborato. La state scegliendo questo brano, quale? Sì, giustamente Valerio. Da mappe, guarda, c'è allora, una... mentre c'è l'ospite, tu di adesso il titolo e loro lo scaricano immediatamente. Una chiesetta senza croce senza Dio, da mappe, il terzo, vedrai. Una croce, una chiesetta una senza croce senza Dio. Dio. Sì, senti questo... tu sei un pazzo, dopo me lo racconti. C'è già da desiderio in dieta. Ma non è che è pazzo di 30 anni fa. Ho capito, pazzo, una chiesetta senza croce senza Dio, guarda come ci scomunicano. Ma guarda un po', Giada, come stai Giada? Giada! Pronto! Guarda che c'è due amici qui, c'è Amedeo che ti saluta qui. Ciao carissima, ciao, come stai? Bene, tu come stai? Sto qui incastrato con Pino, ho capito, con ragazzaccio. Vabbè dai, sei capitato strabene insomma. Beh, dillo sì, un po', certo. Santo Dio, certo. Vuole capitare, senti un po', Giada, io ti ho chiamato intanto vabbè per salutarti perché sei una voce importante anche tu, ma so che c'è un sito, ma mi ha messo molta curiosità questo sito sulle curvi. Sì, è il mio blog che il ha blog, un anno di vita, esatto. Non ha neanche un anno di vita, che si chiama Curvy Jade. Curvy come è scritto? Perché sai, come me. Curvy Jade, Giada. Jade. Ma dai. Un po' di internazionalità. Ma hai messo la J? Hai messo la J davanti? Hai messo la J, come è scritto per raggiungere Curvy, il sito? No, Curvy, scritto con la I. Non è, ovviamente perché tu fatto che sei pure moglie di Luca Ward, che è con la W doppia, adesso ti complica la vita in questa maniera. E Jade è scritto G-A-D-E, come è scritto? È scritto J-A-D-E, Jade, come Giada in inglese, insomma. Ah, certo. Appunto, ma ho messo la Jade. È come il mio nome in inglese, bene. Che è Joe I Teach, Giuseppe insegna. Queste giornate esatto. Così uggiose, questo mio blog, insomma, è di buon auspicio, ecco, perché uno rischia di passare le giornate davanti a un frigorifero, è quello che vogliamo evitare, no? No, quello, già, esatto, quelle le curvi soprattutto, davanti a un frigorifero mi sembra brutto, perché poi se uno lo apre diventa non più curve, diventa una strada di montagna. Assolutamente d'accordo. Ma senti, com'è questa? È ironico, è vero, io ho visto, è divertente. L'ironia, hai usato proprio la parola, l'ironia è comunque fondamentale, è un ingrediente che non manca, perché bisogna comunque affrontare tutta la vita, qualsiasi aspetto della nostra vita con ironia. Questa è, diciamo, iniziata, è stato un po' un gioco, è iniziato un po' così per divertimento, poi alla fine si è rivelato un qualcosa di un po' più impegnativo, ma è un così un po' un supportare, che poi forse è anche un po' terapeutico per me stessa, non lo so. Ma sei così curvi? lo fai tu, Luca ti dà una mano o no? Luca in voce, neanche lo presenta in voce. Luca gli dà pure un'incombenza del genere, secondo me. Ma lui dovrebbe aprire già il sito, al mio segnale bloccate già, cioè una cosa del genere dovrebbe dirla Luca. Certo, no. Una cosa va detta, Valerio Massimo Manfredi non può stare da una parte, capito? Massimo Manfredi, che c'entra, quello è l'autore. Ma no, dicevo il personaggio, il comandante. È rivolta alle donne e non è detto che poi un domani possa essere rivolta anche agli uomini, allora prenderò Luca come testimone. Quando si ingrassa. Quando si ingrassa Luca si ingrasserà un po', ma poi non ho capito, le curvi sono bellissime, oh ragazzi, guarda, la vita è fatta di curve, non esistono strade dritte, curve, è pieno di curve, è che bisogna cercare di toglierci dalla testa questi stereotipi delle donne secchissime, tra l'altro, per carità, bellissime, sì, però quelle che mangiano normali, sì, se sono magre, naturali, va bene, una stampella piuttosto che vestire una donna con delle curve, quindi a mio avviso anche la moda ha anche una grande responsabilità in questo. Educativa, alimentare, sono, certo. Assolutamente sì, ci sono anche delle cose che noi adesso stiamo scherzando, però comunque no, è importante, sfociano anche su delle cose molto più serie. No, parliamo di bulimia, parliamo di anoressia, no, su cose molto serie e importanti, assolutamente. Psicologici. E quindi, insomma, è rivolgersi un po' a tutte le donne, no? A tutte le donne, certo. Quelle che hanno più o meno problemi di questo genere, che hanno soprattutto problemi di accettazione, perché poi si parla anche di questo, no? Certo. Viviamo in una società che ti bombarda di stereotipi, di immagini, come devi essere, come devi fare. Belli come me, Amedeo, è un punto di riferimento, quello si capisce, guarda, è ovvio. Guarda, adesso preparo un evento, esatto. E chiamo a voi, voglio voi. Noi cantiamo proprio vita mia, ci siamo, intesa come vita, ma no la vita di una persona, la vita proprio. proprio. Proprio la vita. 60-90, cioè, la vita. Beh, ma cioè, la mia Serenella, disegnata da Walter Molino, scusate se poco. Era ispirata, cioè l'ispiratrice di questa cosa era la Marisa Alasio. Un'esplosione di tutto, insomma. Esatto, cioè, hai nominato un'icona meravigliosa. E poi mio zio era Maurizio Arena, per cui io sono parente di quel periodo storico. Sua sorella, mia zia, ancora viva. Rossana Di Lorenzo. Tutti così bravi, poi c'hanno nipoti. Andiamo avanti, Gorgiata. Grazie, state levati il microfono a Medeo e strippate tutti i pezzi della bussola. Come si intitola? L'ho dimenticato. Non mi ricordo. Vabbè, un discaccio, 3 dischi addirittura, spendete meglio i vostri soldi. E invece devo dire che è migliorata la generazione del tempo, allora è migliorata, bussola il cuore a Medeo Ming, meglio. Giada, senti, avete tanti contatti, immagino, no? Guarda, in neanche un anno è salita tantissimo. Vabbè, all'inizio c'è stato un picco molto grande, ha avuto la sua classica stasi centrale, su tutto, sta andando, certo, molto molto meglio di quanto non tu potessi immaginare. Sì, perfetto, sì, sì. Mia cara Curvy Jade, noi ti diamo un bacio perché dovevi andare in pubblicità col GR, la pausa un po' più lunga. Io ti abbraccio forte forte, anch'io, lo stesso fa ovviamente, sicuramente, in tutte le tue, sì, curve, Luca permettendo. Ti ringrazio anche se non permetto, facciamo chi se ne frega, chi se ne frega. Abbracciamo. Devi abbracciare tua figlia, la sì, poi te l'abbraccio io perché è bella e rossa, l'abbraccio io. Una è qui con me, una è qui con me che mi fa compagnia. Certo. Stai fermo tu, giù le mani. Ma non posso, c'ho la moglie che controlla e mi mena. Brava. Va bene, Giada Desideri, grazie, ciao Curvy Jade. Tanto, sì. Pino e Amedeo, sì. Cliccate su www.curvijet.it e no, andate a vedere, ci andiamo. Ci sono anche dei, vabbè, ma lui non è capace, adesso bisogna che glielo insegniamo. Adesso noi c'ho qualche minuto, non frequenta i social, levate il microfono. Ciao Giada e anche a voi, ciao, a tra poco dopo il GR insieme a Amedeo Minghi, forse a tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, signori miei, Voice Anatomy, al mio fianco l'Highlander Amedeo Minghi che mi sta accompagnando come co-conduttore di Voice Anatomy questa domenica. Stiamo cercando di andare in diretta sul tuo sito, vero? Sì, ma credo ci siamo? Vediamo un po', ecco, tra 3, 2, 1, ci siamo? Su Facebook, vero, tuo Amedeo Minghi? Ma adesso siamo nel mondo. Siamo nel mondo. In questo momento tutto il mondo ci può guardare. Ci può guardare, volendo, se qualcuno incrocia per caso questo soglio, è stata tradotta in 20-30 lingue diverse, per cui chi conosce l'immenso, anche, sì, certo, poi noi parliamo tutte le lingue, visto, no? Sì, non tranquillamente, però adesso tutto il mondo ci può guardare. Che siamo attraverso, ti piace stabelle, questo nuovo momento della vita, o preferivi prima che era un one to one, cioè nel senso era tua, ma sai, ogni tempo ha la sua caratteristica, la sua peculiarità, quindi bisogna essere saggi e capirne l'essenza. Esatto, così c'è un modo non può di essere, non si può restare fermi immobili. No. Certo, magari, però cercando di conservare le cose buone che avevamo, e questo sì, perché comunque insomma, noi restiamo analogici un po', dai. Restiamo un pochino così, un perché po' analogici, sì, dai. Insomma, tutto non si può buttare, il microfono valvolare vale sempre un po' di più di quello che ha transistor, dai, diciamolo. Assolutamente, è anche vero. Gli LP che stanno facendo adesso, esatto, che vengono, il vinile che è risorto. È risorto, finalmente, anche parlavamo poco fa del triplo vinile. Esatto. È sicuramente bellissimo, è un oggetto da tenere, c'è, cioè, il CD va bene, ma il vinile è da soprammobile, E non solo, ma poi ci dà la possibilità, come dicevo prima, ho menzionato Walter Molino, voglio dire, cioè tu non puoi immaginare un grandissimo come lui che faccia una cosina su un CD. No, no, un disegno su un piccolo CD. Io ho avuto Andrea Pazienza che mi ha fatto una copertina, un disegno originale per un album, si chiama Cuori di Pace, capito? Che bello. Cioè, disegnatori fantastici, fotografi importantissimi. Ma infatti le copertine passano la storia come Andy Warhol e tantissimi sì, altri. Sì, erano delle piccole opere d'arte. Yes, anche erano opere d'arte. Come, yes, i primi Yes arrivati dall'Inghilterra. Cioè, avevamo un abbonamento con questi gruppi che venivano dall'Inghilterra. Da qui si capisce uno quanti anni sa. Vabbè, senti, parlavamo di questo... Tu l'hai già detto, i miei lo sanno perfettamente. Abbiamo detto di questo triplo CD che andavamo a prendere un momento, un pezzo tratto da Mappe, che è il terzo CD, no? È il terzo CD. Sì. E questo titolo, La chiesetta senza croce e senza Dio. È uno dei brani più curiosi che ci sono, tantissimi. Questo l'hai fatto 30 anni fa, più o meno, questo brano. Praticamente sì. Dove... Ma è inedito però, oppure... Non è stato mai pubblicato, è un provino e non so per chi... Un demo. Sì, non so per chi lo poi l'ho scritto in realtà. Andiamo bene. Perché oppure non ce l'hanno preso, insomma, non lo accettavano. Non tutto andava a buon troppe fine, parole e troppe note anche lì. Ma in questo qui no, questo, però senti il tempo qui lo senti. Eccolo. Tutte vocette fatte da me, senti. Il giornale del mattino non lo leggo più. Di sapere se è bel tempo non mi importa più. Dopo pranzo sul mio letto non mi stendo più. La sera con gli amici non ci vado più. Quello che succede intorno a me, la la la la la, vale questo sono io. Sei tu? Certo. Se riguarda te. Ma questa è incisa in quel periodo o l'hai riscritta? No, questo è un demo che hai ritrovato. Esattamente il demo ritrovato così com'era. E che poi erano delle lacche, non si chiamavano lacche. La allora, lacca, sì, ecco, la vero. Lacca che precedeva poi l'album. Quello utilizzavano i DJ, sì. Si chiamava anche quello. Vabbè, la nostra lacca, quando l'avevi utilizzata una ventina di volte, poi andavano buttate perché si rovinavano. Sì, esatto. Quindi oggi con i sistemi, con i programmi che abbiamo salvato, ho cercato di portare a casa qualcosa è rimasto invece purtroppo inutilizzabile perché era proprio impossibile da recuperare. E uno non pensava che un giorno avrebbe... No, assolutamente no, chi pensava? L'avvento di questo mondo non c'era. No, in 20 anni veramente il mondo è completamente cambiato. Io invece parlavo, ma infatti è una bella navigazione questi triplo CD, è un bel sì, andare. È un vero viaggio, è un viaggio è un ponte fra il passato presente e il futuro. Perché ci sono delle cose dentro dove alcuni brani, uno in particolare, nascondono dei progetti che li riguardano, come per esempio un brano dedicato nel percorso della fede, nel secondo album, Il Cuore, dedicato ad Anna Frank, per esempio, che c'è questo brano dedicato a questa ragazzina che, dico, se fosse stata cristiana, una così noi l'avremmo fatta santa. Ecco, proprio perché hai aperto questo link, proprio per utilizzare anche il termine, sì. Mi devi raccontare proprio la tua esperienza con Giovanni Paolo II. La canzone di un uomo venuto da lontano di Marcello Marrocchi e Amedeo Minghi, sì, se non sbaglio, insieme, no? Sì, sì. Che racconta proprio la vita di Giovanni Paolo II con una traccia video proprio da lui stesso autorizzata. Sì, sì, non avremmo mai potuto fare. Certo, non si potrebbe. Questo percorso di fede, esatto. Ma questo percorso è affrontato in maniera laica o in maniera... No, solamente laica, anche perché la canzone non parla dell'uomo religioso, parla di un uomo venuto lontano, che poi fu la frase che disse lui quando si presentò al mondo per la prima volta. E quindi con Marcello Marrocchi avevamo questa intuizione di scrivere un brano dedicato a un personaggio così importante come il Papa, perché non si usa in Italia, tu lo sai, in America lo fanno, sì, sì. No, non ai Papi perché non ce l'hanno, no, però, sono nostri quelli, almeno quello. Però scrivono su personaggi importanti, presidente degli Stati Uniti, fanno moltissime cose, si celebrano, no? Tantissimo, invece ci celebrano noi noi questa cosa non la facciamo. Però questo papa che arriva e che nuota in piscina a Castel Gandolfo, va a sciare in montagna, esatto. Esce di notte. Se andava a sciare a Castel Gandolfo, sì. Ci doveva parlare in un altro modo, nuotava in montagna. E quindi ci ha incuriosito, abbiamo scritto questa cosa per dedicare a quest'uomo che avevamo capito che insomma sarebbe stato. L'abbiamo fatto prima dei media, perché questa canzone l'avevamo scritta nel 92-93 addirittura. E poi pubblicata invece nel 98, con i tempi papali, giustamente. No? E certo, ci vuole un po' di tempo. Però ci arrivò improvvisa questa cosa, che il video che mandammo a lui per farglielo vedere come omaggio, a lui piacque moltissimo e ci disse che potevamo pubblicarlo, altrimenti sai benissimo che le immagini di Papa non si possono per te la tua avventura col Vaticano. Infatti nell'album Decenni del 98, cioè, che è un CD-ROM, si naviga all'interno e si trova la stanza dove c'è il video del Papa. Che bella cosa. E com'è il tuo rapporto con la fede invece, con la religione? Il rapporto veramente da lui sollecitato moltissimo, non c'è dubbio. Era un po' stupito, francamente, devo dire. Un po' ha risvegliato stupito. Un po' gli animi. Anche questo Papa, devo dire, Papa Francesco ha ridato un po' di brillantezza. C'è una curiosità. Hai cantato pure per Papa Francesco? No, ho cantato per il Cardinale Bergoglio in Argentina. E che poi è diventato Papa. Mi posso mettere sulla piazza perché io ho cantato. Porti fortuna. Non solo, ho cantato per due cardinali, sono diventato poi due papi. Ma adesso che tu. Ratzinger a Cracovia. Ed era cardinale a Buenos Aires, Bergoglio che era cardinale, arcivescovo di. Senti, una canzoncina su di me, ti dispiace? Non voglio diventare papa, no, magari mi conosca. Cioè, se tanto mi dà tanto come proporzione, tu canti per un cardinale diventa papa, no, canti due, per un amico, due cardinali, due cardinali diventano papa, canti per un attore ma diventa. Ma io penso che in Vaticano lo sanno sta cosa, secondo me lo sanno molto bene e credo di essere annotato tra le cose. Chiamate Minghi per favore, che ci avrei bisogno di un voto importante. Cioè, capito signori, qui in diretta a Facebook stiamo dicendo questa cosa, si è proposto come presidente, no, i papi veri sono stati nominati da Amedeo Minghi. No, no, due, gli ultimi due sì. Sì, cioè sei stato un portafortuna dei papi. Gli ultimi due sicuramente sì. Questo è bellissimo, l'hai incontrato Papa Francesco? Francesco no. Non è poi complicato, lui è uno abbastanza... Beh, è un po' schivo perché lui non piace la musica purtroppo. No, esatto, questo lo so perché io recito ogni tanto per l'Orchestra del Vaticano di Don Marco Frisina. Lui lo conosco molto bene. Bravissimo Marco. E lui è vero, non ama tantissimo la musica, visto non è che non ama, concetto. Ha paura che diventi una cosa ludica, cosa, lui rifugge un po' da questi espedienti comunicativi. Però insomma. Francesco, insomma, ti vogliamo tanto bene. Lucia, se ci ascolti, fa cantare una canzone a Amedeo Minghi, che poi diventi santo subito a sto punto, perché la prossima evoluzione è capito, quella. Ma infatti hai visto Papa Giovanni. Ma avete capito, maglia di grandezza. Due cardinali diventano papi e un papa diventa santo. Quindi insomma. Io non so se dopo questa trasmissione continuare a lavorare qui oppure comprerò Radio 24. Anche io se ti vengo da dietro esatto. Io ti tengo il piattino, non so. Esatto, ci portano le arance, qualcosa succederà. Succederà. Intanto restate con noi perché abbiamo ancora un'altra mezz'ora insieme ad Amedeo Minghi e questa bellissima avventura musicale, perché però voglio recitare un pezzo di vita mia, per cui prepara la Valerio e poi vediamo come funziona, è una prova generale per il concerto futuro e per se va futuro, bene certo. Devi bussare coi piedi come si dice a Roma. Mani sono occupate, va bene, a tra pochissimo. Voi sanatomi e Amedeo Minghi. Voi sanatomi. Eccoci di ritorno come promesso, rapidissimi, 16 primi e 6 secondi in questo momento. Siamo ancora in diretta Facebook, no, ci siamo fermati. Diciamo diretta Facebook, ovviamente non della nostra pagina, continuate ogni tanto abbiamo fatto e vi ringrazio di tutti i click e i like, che ormai sono i like. Adesso non so quanti che... dischi hai venduto, quanti like c'hai, è questa la cosa, no? Adesso va adesso sì, like. Ma noi io mi occupo di queste cose da diciamo da un anno e mezzo praticamente, sono prima non, francamente no, non lo facevo. Poi ho detto ma guarda devi stare sui social, vabbè andiamo sui social, poi ho fatto questo disco anche con la Sony, insomma in qualche modo c'è tutto il discorso e in pochissimo tempo siamo arrivati quasi a 100.000 sul video appena fatto, 1500 visualizzazioni sul video appena fatto, adesso quello abbiamo fatto noi, no saranno molti di più, no, saranno abbiamo fatto adesso, abbiamo fatto il primo, ma è da un minuto, abbiamo durato no tre, ma quattro. Cambia in 5-10 minuti magari sono altre 2000, sì no quello adesso vabbè 4500 visualizzazioni, se no mi devo, ma quando andiamo via, quando finiamo il programma, quando mi liberi, non so quando, quando mi sgancio lì facciamo 100.000 perché ringraziando il cielo abbiamo finito lì, c'è il top dell'ascolto. Senti, a proposito di questo dei media, a proposito di questa nuova possibilità e modalità di andare in tutto il mondo, c'è questo passaggio che mi diverte molto ed è affascinante, il fatto che uno dei più grandi cantanti cantanti d'oltreoceano abbia utilizzato un tuo brano per raccontare una sua canzone. Insomma, noi ho preso un brano mio e parliamo di Justin Timberlake. Sì. E allora sentiamoli questi due momenti. Uno è il tuo Lustful del 72. Questo è quello vero di Amedeo. Questo è quello, no, sentiamo prima quello di Amedeo. Sì, questo ero io, Ecco, questo è di Amedeo. Sì. Questo è il tuo. Questo è il Mindy, è il gruppo, le cose, le cantine. E le cantine, no? Senti com'è il loop. Qui c'è il tempo. Questo sono Figli dei Fiori. Eh sì. Woodstock. Eravamo giù nelle cantine a suonare, certo. A fare, a sperimentare. Qualcuno... Black Sabbath, yes. Certo, Uriah Heep, Gentle Giant. Gli Spirit addirittura. Gli antesignani di Pink Floyd. Senti qua, Gentle Giant, certo. Senti qua. C'è tutto. Molto colonna sonora anche questa, e poi parleremo delle due colonne sonore. Invece, a quel punto, Justin Timberlake ha ascoltato il Mingy del 72 incantinato come un buon vino, sì. E ha tirato fuori un brano che è Only When I Walk Away, Justin Timberlake. Sì, ha preso un tema che stava dentro questo coso e lo ha elaborato. Eccolo. Hai capito? Ha fatto un singolo, l'ha presentato a Londra e a Los Angeles con una scenografia incredibile, enorme, una cosa, questa, un'americanata, come diciamo noi, no? Allora, guarda, di là abbiamo una ragazza, che non è una ragazza, è una grande professionista, è un'artista americana, Nicole. Vieni di qua, Nicole. Nicole viene da Los Angeles e... io non so per quale motivo sta cercando me per fare un'installazione, forse mi avevo bloccato da qualche parte, non ho ben capito, e ho detto guarda, sto lavorando a Roma in una radio molto importante che va in tutto il mondo, tanto lei non lo sa, non parla bene italiano. Ecco, è entrata adesso Nicole, ha detto che se parli lentamente però ti capisci, metti dall'altra sella diretta, esatto, eccola qui. Allora vieni Nicole, Ciao. Non mi parla italiano adesso. Ho faticato. Nicole, tu prova a parlare inglese, noi proviamo a tradurre, visto che Voice Anatomy. Ti piace? Do you like this kind of show, radio show? Oh, I love podcasts. I love radio shows. Mi piace molto il broadcast. And I really love the concept of this one. E mi amo molto il concetto di questa trasmissione, soprattutto Pino Insegno e il suo corpo. Questo ha detto, mi sembra di aver capito. Non così. E Amedeo Mingy. Pino Insegno e Amedeo Mingy in Los Angeles, non do you know Amedeo Mingy e Pino Insegno in LA? No, I do. Tu sì, because I love things from Italy. Lei ama l'Italia, allora lei giustamente sembra una presa in giro, ma invece è vera. Lei mi ha chiamato tramite dei miei amici che hanno una società di produzione internazionale di cinema, che io doppio, lavoro con loro, ultimi film Capitan Fantastica, Viggo Mortensen, eccetera, e Jamie Foxx. Ma detto, adesso tu che fai, ti stendi sul lettino io e non ti lo facciamo, so, io, I don't know, ti facciamo what's la cosa Nicole psicanalitica. Wants, to me, hai bisogno di esternarti. Non lo so se è una psicologa, se l'hanno mandata. Lei è un artista, sì. You are an artist, sì, installazioni nei musei, video. Il mio ragazzo è da Napoli. Eccola, da Napoli, sì. C'è sempre uno di Napoli. Ma ti ho detto, quando andrò su Marte troveranno già un napoletano organizzato. Io li amo, i napoletani sono straordinari. Dove l'hai conosciuto? A Los Angeles? Sì, sì, lui anche è un artista. È un artista, ma vive in Los Angeles? Tutti i napoletani sono artisti, tutti, sono attori, sono cantanti. Sì, no? Everybody in Naples artist. Oh, I didn't know. No, è così, yeah. è così, è un dogma. Assolutamente. Cantano, ballano, recitano, inventano, sono straordinari in questo. E allora anche lui fa installazioni video. No, sculpture. Sculpture. Hai capito? Hai capito? Che bello, sculpture. Adesso tu sarai bellissimo. Testimone di un momento dove io I read a song of... non ho mai parlato inglese così bene attraverso sta radio. E quando uno è concentrato, perché io parlo con le frasi che, dei doppiaggi che faccio, e mi rimangono quelle. My life, vita mia. Sì. Io, it's a test before the show in Rome. And I read, and then Enter the music, the real music. Okay. Vediamo come va. We see how. Sì. Vediamo come va. Meglio che non sono come Catalan. Io sono italiano e sono orgoglioso. Allora, proviamo una musica sottofondo qualsiasi e poi partiamo con Vita mia. Non so a che punto. Va bene. Eccola. Vita mia. Non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce e sgussa via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu, e fatti piove. Vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Io vestito leggerissimo morrei e mi abbandonerei per veder di nuovo la vita mia. Rapidissimo addio e guardo fuori, vedo cuori e sono gli alberi che anch'io ho scalato, anch'io e annidato lassù. Rivedo te che sei la vita mia, questa vita tra le braccia, tra le mani. Ha un bel volto la tua faccia, un gran viso, ha il vuoto che dai tu, ma anche il tuo sorriso io l'ho vissuto, è confuso sul mio. Se questa è vita, l'ho toccata, l'ho sentita su di me, l'ho abbracciata in te. Vita mia. Possiamo anche sentire la mano perché ci vedono, ci guardano. Non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce e sguscia via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. Infatti piove. Vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Mi sento vestito, leggerissimo. Con Vita mia di sottofondo, siamo sempre in diretta. Ovviamente a Facebook non hanno sentito l'entrata di Vita mia. Bellissimo. Può essere divertente. Poi, io so poi la prima volta che la leggo. Non sei senza, appunto, letta così. Vabbè, ma questa è la prima lettura. È il nostro modo di poi di lavorare. Noi entriamo in sala la mattina alle 9, ci dicono il titolo del film e l'attore che fai e vai. Insomma, qui ci salutano, ci dicono di invitare Ted Nilly, per carità. Ancora fa Gesù Cristo a 74 anni. Sì. Qualcuno gli ha detto che è morto a 33. No, per carità, mi faceva ridere. Un grande professionista, grande idea, intelligente, poi soprattutto mediaticamente intelligente. Però mi faceva ridere. E poi piccolissimo. Cioè, veramente. Come è piccolo. Un metro e 50. Sì, non lo so. C'è una voce pazzesca ancora. Un piccolo Cristo. Sì, no, un piccolo Cristo, ma di grande età. Un messaggio per te, anche Nicole. Devi dire che ti piacciono la pizza, i tonnarelli, cacio e pepe. Dice. Ti piace la pizza? Sì, sì, veramente. Sì. E che come fa a non piacerti la pizza? Sì. Beh, insomma, ti piace mangiare a te, Nicole? Sì, ma. Meglio per me amatriciana. È meglio amatriciana. Oh, io lo dico sempre. Lo dico sempre perché una buona amatriciana mette tutti d'accordo. Ah, è fatta bene, ragazzi. Fatta bene. Sapere dove andarla a mangiare, sicuramente sì. Sai quante cose ci sono sulla tua vita? Sì. Ma metterò alla prova, mio mio, visto che abiti anche vicino. Va bene. Promesso. Senti, ma c'era quella canzone meravigliosa, un tormentone con Daniela Commietta, questo Vattene amore. Vedi che tu hai navigato un po' dappertutto, è proprio una grande navigazione la tua. Sì, vero. Vattene amore è veramente divertente. Ha fatto la musica. Che poi arriva da terza, ma ha venduto più di qualsiasi altro. Non è arrivata ultima come altri brani, che poi hanno venduto molto di più. È arrivata terza perché comunque... Me la metti sottofondo, Vattene amore? Che bella che è. Vattene amore. C'è doppia voce. Siamo ancora in tempo, credi di... La conosci, Nicola? Pensierato, sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no. Ma io devo fare mietta secondo te adesso? Vabbè, tu devi fare mietto. Eccola. Ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi. E allora come mi chiamerai? Magari ti chiamerò Tottorino amoroso, du du da da da. No, tu mi devi dire quando è nata sta canzone e come è nata. Ma questo è Mozart. Questo è Mozart impazzito. Con tutto il rispetto per Amedeo Minghi e ma per no, Mozart. No, è una citazione del cioè, del like Mozart says in this moment sì, sì. My friend, my ex friend Amedeo Minghi. Non è che adesso io, siccome ho fatto diventare ho cantato per due cardinali direttamente dico cose dico, le cose che vedo sballate. Questo è Mozart. È un omaggio, una citazione da, da Così fa tutte di Mozart. Perché lui dice a un certo punto allora ti chiamerò Tottorino amoroso. No, chiama Farfallone amoroso. Farfallone amoroso. Ma non dice dice parole. No, però dice Farfallone amoroso e volendo no, quello non lo dice. Lo dice tutto. Però dice Farfallone amoroso. Noi certo. Abbiamo preso questa con Pasquale Panella, abbiamo preso spunto da questa cosa per citare Mozart con Trottolino amoroso. Va bene, io non saprei cosa aggiungere, mi servono due minuti di serenità. No, ci sta, perché Farfallone amoroso, cioè, ci sta, è una citazione. No, è una citazione, è vero. No, io pure posso certo. Citarti. Comunque, Sì, se vuoi. Ci sono gli eredi di Mozart che arriva con una citazione. No, è vero, ma grande ironia, grande intelligenza, grande brano che entra veramente. Ma poi la cosa divertente che con Pasquale tutti scrivevano questa cosa, ma nessuno l'aveva capito. E noi ci siamo molto divertiti questa faccenda. Sì, postumi uno poi descrive, chissà il motivo, la farfalla rappresenta la vita che corre. No, è una citazione. Una citazione presa semplicemente da Mozart. Ma da che vuoi prendere? Sono quelli più eseguiti sul pianeta. Quando come dice Woody Allen, mi sembri Dio, beh, qualcuno dovrò pure ispirarmi, santa miseria. Va bene, a tra pochissimo, sempre con il nostro amico Amedeo Minghi. Grazie. Voice Anatomy. Eccoci signori miei, siamo tornati 16 tra signori per me, signori e signore, sono tutti e due. Signore, signore, mi certo. Pare signori miei, mi piace signore, un signore. Po' di più. 16 e 32 50 secondi con Amedeo Minghi, anche Nicole. Il tuo cognome è Nicole Miller. Miller, che sarebbe Miller per noi, però per loro è Miller. Poi pensate che il mio cognome in America, insegno, sì. Non è insegno, magari io pensavo insegnau, invece no. È insegnau. Cioè, no, tu no. Ti rendi conto? Oh, Mr. Insegnau, fatto ma chi è? Insegnau. Minghi, Minghi, t'avranno detto tutti. Come scendi in Sicilia sì, è finita per te. No, adesso è finita questa cosa. È andata avanti per tanti anni. Poi, ormai tutti ci sono, ci sta pure questa cosa. Senti, allora tu ci stai seguendo adesso. Sei testimone oculare di un broadcast italiano. Ok. È difficile. Testimone oculare, non l'ha capito. No, non so neanche come dirlo. Live witness. Eyewitness. Testimone oculare. Vabbè, speriamo che sia giusta la traduzione, perché uno parla così. Beh, non t'ha menato. No, ha detto giusto, ma sorriso. Senti, abbiamo molto saputo giocata. In questo momento, visto che abbiamo fatto questa diretta Facebook sul tuo sito e più di 10.000 persone ci hanno seguito, sì. Guardate quant'è la potenza. E ci hanno anche chiesto però una cosa. Esatto, che noi cerchiamo proprio di esaudire. Oggi è l'anniversario della morte di Papa Giovanni, fatalità, abbiamo parlato in quel momento molto importante del tuo percorso di fede e questa possibilità che hai avuto di cantare un uomo, di raccontare sì. Un uomo attraverso la quel musica. Quel giorno lì del funerale io avevo un concerto alla Sistina e cominciammo questo concerto ma non riuscimmo a finirlo perché quando poi arrivò il brano del Papa tutti cominciarono a piangere, fu una cosa... È vero, fu molto emozionante. Io, la voce mi si spezzò in gola non si riuscì ad andare avanti e abbiamo sospeso la cosa. Per un po', sono sicuro che questo terribile. Corrisponde a verità perché anche per una persona laica che segue... ma la canzone infatti è dedicata all'uomo non assolutamente, ma non c'era quella religioso. Bara di legno col vento che sfogliava il Vangelo, credo, sopra la sua bara... fu un momento di magia pazzesco e io quando ho avuto la fortuna soltanto di stringergli la mano, baciargli la mano una volta quando ho recitato, dicevo prima, con Marco Frisina l'ultima opera, il trittico romano che ha scritto Papa Paolo Giovanni II, insomma, San Giovanni Paolo II e dicevo vabbè, ma è un uomo, dicevo guarda Pino, non è così, ho fatto sì, va bene, un papa io lo rispetterò, lo saluterò, ma insomma non mi aspetto un impatto emozionale più forte del dovuto, e invece quando è entrato ha spostato l'aria. Ve lo dice una persona che vive in maniera molto attenta alla religione, ma in maniera laica, insomma. E devo dire che l'emozione è stata violenta, ripeto, violenta. Quando lui è arrivato, noi capimmo questa cosa prima dei media, molto prima, e poi ovviamente tutti hanno seguito questa cosa, perché lui ha rotto veramente tutto, è stato veramente prorompente, ha tracimato. Quindi, ovunque Francesco continua la sua questa opera, tradizione. Altrimenti non sarebbe, quello che sta facendo Francesco non sarebbe stato possibile. No, un'ottima scelta, ha avuto molta intelligenza a cantare anche per quel cardinale che hai fatto diventare papa. Allora ascoltiamo, questo è un momento, siamo riusciti, grazie a Valerio, Rachele, grazie a tutti quelli che si muovono intorno alla trasmissione. Ringraziamo anche il mio fan club che ci ha l'hanno chiesto, questa cosa, assolutamente, e questo è l'importanza del social quando di cui usato sopra, così, quando è usato bene. Così. Allora, questo momento di Giovanni Paolo II, questa canzone, questa traccia di un uomo venuto da lontano, che parte proprio con la voce di Papa Giovanni. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Un uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore, e intanto scriveva poesie d'amore. Amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano. Un uomo venuto da molto lontano. Che bel momento, sì. Questa l'orchestra diretta da Marco Frisina, mi dicevi. La prima volta, sì, quando girammo questo video, il Papa era a pochissimi metri da me, non più di 6-7 metri, e si vede anche nel video che alla fine poi fa l'applauso, lo fa a me guardando me, e poi si sposta sull'orchestra e saluta. È anche molto attento, sì. Beh sì, perché lui era un musicista, era un artista, era un poeta, era un attore. Queste sono cose che fanno bene a tutto, fanno bene anche al calcio, come si dice. Questo brano lo canto in tutti i miei concerti, certo. E dove, accompagnato ovviamente da questo video, perché è straordinario, non averlo, certo. Ma ancora adesso, in queste date che stiamo facendo, ma tutte le sere in tutto il mondo la gente si commuove, quasi sempre c'è una standing ovation e la gente ha le lacrime agli occhi e piangono proprio. Ha lasciato un senso, come posso dire, proprio una eco d'amore. È un parente che se n'è andato, proprio, perché sì, è ancora vicino, però lo senti, un caro parente. Parliamo proprio dell'uomo, che non parliamo della politica, quello che succede. Non è una canzone religiosa, è una canzone che riguarda lui, la sua vita, il suo modo di, cioè le sue esperienze di vita, insomma, che sono attraversato dalla guerra, guerra e in che paese poi. Sì. Io penso che ho cantato quando cantai veramente per Ratzinger, il cardinale, l'ho cantata a Cracovia nella Jagellonica, che è l'università nella quale prima studiò Wojtyła e poi divenne professore. Ah, addirittura. Sì, lui ha studiato e insegnato in quella università, e io ho avuto l'onore di cantare proprio lì, su quella scrivania. Queste cose veramente sono i ricordi del cuore. Sì, non è un caso che anche è stato uno dei momenti più importanti della tua vita, pure, no? Sicuramente sì. Senti, tu poi vai da una parte all'altra, parliamo di questi concerti, ma sei anche un compositore di colonne sonore. Io sono un grande collezionista di colonne sonore, sono circa 13.000, pensa. Sono un pazzo, felicista, certo, mestiere che fai, la colonna sonora io la amo. Poi, non sapendo suonare niente, è vero, è così, amo la musica profondamente e cerco di essere amico di persone belle che come te raccontano in musica la vita. Te faccio vedere le mie colonne sonore, perché mi sono piace, state tutte pubblicate. La principessa e il povero, Desideria, l'anello del drago, Sorellina e il principe, sono tutte... Il più famoso è Fantaghirò. Fantaghirò, tu ami la favola. Beh, ma anche perché oggi con la festa di oggi, come hai visto all'inizio, stavi qui all'inizio, è la festa di Andersen, Hans Christian Andersen, il più grande raccontatore di favole. Tu sai, scrivere per il fantasy è la cosa più, non solo più difficile, ma più divertente, perché ha a che fare e non è facile. No, non è facile, ma è molto divertente, perché io avevo lì le frecce, il sasso parlante, certo, l'albero che parla, capito? Cioè, i mostri riescono da che balla, certo, il mago che fa le magie, la strega che fa, certo, le sue cose. Quindi, insomma, dovevo combattere con tutto questo. Poi c'era il regista, appunto, che se non c'era la musica, diceva, ma qui non c'era una messa. Dico, ma gli facciamo respirare un attimo. Esatto, lasciamolo un po' di ascolto delle parole. Facciamo Lamberto Bava. Lamberto Bava, bravissimo. Uomo straordinario, molto, anzi, se stai in ascolto Lamberto ti saluto, un caro amico, sì, straordinario, veramente straordinario, lui della scuola Argento, insomma, di figlio di Cotanto Padre, Mario Bava, grande, vero, il primo racconto di Trilling, primo, mamma primissimo mia. Anche lui si diletta nel fare l'horror, ma poi questi, sì, che fanno l'horror sono delle persone, sì, tenerissime, esatto, dolcissime, è vero, sfogano tutto lì, evidentemente è un esorcismo, no? Privato quello di fare questa cosa. Vero, senti, voglio ascoltare l'altro brano, il secondo brano inedito di punta, il secondo, come si dice, estratto da questo 15.000 CD di Amedeo Minghi, si intitola Pensando a te. Pensando a te, ce l'abbiamo lì, vero Valerio? E allora vai. In quel silenzio che mi avvolse oramai, e tu così tornasti a me, emersa dentro dall'essenza di noi. Nel mare mio ti scrissi anch'io, ma non t'ho detto mai quelle parole che si dicono e sono sempre le stesse, lo sai, e siamo in tanti, amarsi è bellissimo come un fiore sui nevai, senza rimpianti sei l'oro mio, splende sempre luce solo per noi. Adesso sì, la vita in noi vivrà all'unisono ovunque sei, scegliendo chi ci porta via, e non millanta amore che è già in me. Tu sei poesia che declamai, ma non t'ho detto mai che stella sei nei cieli miei, come luce risplendi per me, e siamo in tanti, amarsi è bellissimo. Sei il menestrello dell'amore, Amedeo. Ci stanno i castelli però in quello che racconti e come lo racconti, lo sai che si vedono i castelli? Li vedi, eh? Ma sì, ci sta, per questo la colonna sonora che tu hai firmato per questi grandi progetti fantasy funziona, perché funzionerebbe anche questa canzone alla fine, magari come titolo, sì, di coda, sì, sì, sicuramente, di queste principesse, scrivo, di questi scrivo draghi in maniera, da sempre scrivo queste modo di scrivere, insomma, come posso dire, ampio respiro, ampi spazi, queste è una visioni scrittura dall'alto autonoma, cioè io potrei anche non esserci addirittura. Cioè, è bellissimo, tu ascolti le basi, per esempio adesso il cantato vive, no? Anche sull'aereo tu dici, sì, praticamente, no, quelle musiche, sì, la posto, sì, Papetti, c'è solo il pezzo, cioè, senza le parole funziona ugualmente, è vero, è uno score, come si dice, sì, sì, sì, sì, nelle colonne sonore. Va bene, senti, rimani ancora ovviamente qui con noi l'ultimo blocco, beh, insieme, mi ha fatto venire le piaghe da decubito, ma è lunga la tua storia, non ho fatto la metà delle domande che vorrei farti, che cosa vuoi? Rimani con noi perché poi entriamo anche nello sport, perché c'è un bellissima compenetrazione, osmosi fra le trasmissioni, c'è una bellissima trasmissione di sport che tutti convocati, che lui lo chiamavo l'altro anno Maina Gioia, perché ogni volta a te mi collegava, Lazio aveva perso. Invece quest'anno devo dire che o prima o dopo succede sempre qualcosina. Stiamo veramente cavando bene. Allora, tra pochissimo con Amedeo Minghi per gli ultimi 10 minuti insieme e anche Nicole, che è il nostro silente testimone da Los Angeles. Tra pochissimo, Voice Anatomy. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori miei, Voice Anatomy, ultimi 10 minuti insieme, anche se ce ne vorrebbero altre due trasmissioni per raccontare a Amedeo Minghi questi 50 anni straordinari, la bussola e il cuore, questo triplo CD e triplo disco vinile, che bello, quello, comprate quello, quello, quello è un bellissimo, quello è bellissimo, veramente bellissimo. Un percorso interessantissimo. E vi ricordo le ultime due date di Amedeo, visto che hai navigato attraverso tutto Roma. Date teatrali, poi tu fai sempre teatro, tu è teatro, sei un performer, cioè, il concerto lo fai, ma è sempre ricco di recitazione, orchestra, musica, parole. E quello Io ho portato un teatro di tutto, dalla grande orchestra alla solitudine, ho fatto 160 repliche di il pianoforte. Io il pianoforte, i monologhi, le canzoni. Ma sì, lo sanno. 10 aprile a Napoli, al Teatro Diana, bellissimo. Mi dette il primo mio esaurito nell'89. Pensa, quando cominciato, la prima volta che ho fatto il Teatro Diana, ma molto attento. Hai scelto un teatro, sono belli a Napoli, devo dire. Sono bellissimi. Il Diana mi piace molto. Il 27 aprile a Gaeta, poco distante, insomma, il Teatro Ariston rimane chiuso in campagna, insomma, in qualche modo. Sì, beh, abbiamo fatto un po' di tutto, siamo stati a Trento, Gallipoli, Milano, Torino, Asti, Trento, Mestre, Foligno, insomma, è stato dappertutto, ma siamo scavalcamontagna da questo punto di vista, non ci fermiamo. E poi riprenderemo dopo la pausa estiva, cioè dopo, perché cominciano già le dove date... Dove io farò una cosa, però, me lo devi promettere. Nelle date estive? No, le date estive non lo so, quella autunnale sicuramente sì, assolutamente sì. Vediamo quello, annunciamo. Assolutamente sì, se non ci hanno ancora cacciato via, quello annunciamo. Sì. Se non ci hanno arrestato per le cose che abbiamo detto. Performer, singer in America, you love? Oh, so many different kinds. Yes, I love, from? Mi piace Stevie musica Wonder. Da, sì, veramente, beh, Stevie Wonder, Jimi Hendrix. I made a video recently about a man that dresses up like Jimi Hendrix on Hollywood Boulevard. Ecco. Lui è sempre come Jimi Hendrix. Perfetto. Bello. E poi chi ti piace? And then? I like rap music also. Ah, sei il traduttore, Mauro Meconi, l'autore, serve un traduttore. Hai fatto Romanzo Criminale, non parli inglese. Insomma, anche gruppi musicali. Gruppi adesso... Mi piace rap music. Rap, yeah. Tupac, Notorious. Sì, certo, sì. Lei I'm from Los Angeles, Tupac. Hai capito, sì. Che fine che hanno fatto questi però. Sì. Se non morono a 20 anni non sono felici, per cui noi stiamo tranquilli e festeggiamo i 50 anni. Noi andiamo fra la East Coast e la West Coast tranquillamente. Andiamo dai Marche 50 anni e parliamo anche Toscana. Di quello che faremo. Esatto. Poi, parliamo anche di quello che faremo. Ma sì, ma tu canti per la East Coast e la West Coast tranquillamente, nord e sud, tranquillo, tu la navighi attraverso veramente il mondo. Tu poi fai lavorare... Perché giovani, cioè sei molto attenta ai giovani, tu lo dimostra che un giovane studente proprio della Sapienza, Michele Vitiello, ha firmato la regia dei tuoi ultimi videoclip. Video, insomma, è bello. Questo fatto che ti stai... Ma l'ho sempre fatto. Sì, però. Sì, sei sempre stato molto attento. Molto attento, circondato da giovani, lavorare con loro. Ma perché ti danno una linfa fortissima, insomma, non sì, soltanto. Beh, è uno scambio notevole. Uno scambio importante fra noi e loro. Perché e altruismo e egoismo nello stesso momento. Esattamente. Insomma, è giusto. Sì, beh, si può anche dire così. Sì, in maniera è uno scambio onesto, culturale. È uno scambio culturale. Noi diamo molto e poi riceviamo, no, con la novità. Con questa bella energia nuova, no, che arriva, e quindi è un bello scambio. Ti tiene in mai vita. Stare con i coetanei? No, mai. Infatti, guarda, io non ti frequento più. Infatti, questo frequenti me perché sono giovane. Ma guarda, how old are you? 35. Hai capito? Appunto, c'è gente che c'ha ancora 35 anni, penso un po'. È una cosa incredibile. Sai quanti anni ha Amedeo Minghi? 40. Certo, è bello. Hai visto? Hai capito che Bugiardi a Los Angeles è... Che Bugiardi, ah, liar. She's a liar. Comunque sì, però in ogni caso li ho avuti, sicuramente. Sì, mi ricordo che hai avuto 40 anni. Ci colleghiamo col grande Capuano. 25enne Capuano. 25enne Capuano. No, sta a Milano, non ti guardare intorno. La trasmissione Tutti Convocati è diretta da Milano. Ah, sì, ecco, noi siamo in collegamento da Milano e lui ci dà i risultati. Noi siamo sereni e te perché abbiamo vinto. Sì, però ti sei portato il nemico in casa, vedo. Ma non è un nemico, è un amico, Capuano, ma che mi fai litigare così? Beh, allora come finisce il derby martedì? Dai. Martedì va bene, perché quando mi collego con te ormai io sono tranquillo. Non sei più mai una gioia. Allora, ci stanno dei risultati. Che dice Valerio? Ah, mi hai chiesto il risultato di martedì. Ma sì, voleva un pronostico. Io non credo nella remontata, sinceramente, come si chiama ormai. Beh, io ci spero. È giusto. Credo che sia difficile, ma non impossibile. Eccola, nel 1950. Senti, il calcio è così, certo. Perché lo amiamo? Perché è imprevedibile. Guarda, no? Vabbè, non voglio sentire questi discorsi. Mi dici che è successo oggi, Capuano? Sì, ti racconto delle 5 partite del pomeriggio che si stanno chiudendo. L'unica che si è conclusa è Genoa-Atalanta 5-0 per l'Atalanta, che mamma continua mia, ragazzi, a correre a un ritmo davvero straordinario, trascinata dai gol di Papu Gomez, che oggi ne ha fatti 3 nel 2017, ne ha fatti 11, è il giocatore che ha segnato di più anche di Belotti, che oggi ha segnato, è capocannoniere insieme a Dzeko, più di tutti ne ha fatti il Papu Gomez. Poi c'è e mancavano davvero pochi secondi alla fine del tempo di recupero, il Milan che è fermo sull'1-1 a Pescara. Questa è una partita che passerà alla storia per la prima vera papera di Donnarumma. Ha fatto un liscio incredibile su retropassaggio di Paletta, quindi autogol di Paletta, vantaggio del Pescara. Poi ha pareggiato Pasalic, però un brutto errore, ma capita anche ai migliori. Gli autogol sono sempre brutti. È finita adesso, Pescara-Milan 1-1, poi c'è la Fiorentina 1-0 sul Bologna, gol di Babacar al sesto minuto di testa. Sempre la Fiorentina in un segna che vince quell'1-0, zic zic. Mi ricorda qualcuno. È vero? Vabbè. Ci ricorda qualcuno. Poi, a noi romanisti ci ricorda qualcuno. Ha voglia. Prego. E poi c'è il Cagliari che vince di rimonta 3-1 a Palermo. Gonzales, Lionita, doppietta e Borriello. Era l'unica possibilità per il Palermo per provare a rialzare la testa verso l'Empoli. Vincendo oggi si sarebbe portato a 5 punti dall'Empoli. E tra l'altro con lo scontro diretto all'ultima giornata, ora diventa tutto obiettivamente molto difficile. Più difficile. Sì, sì. Ma a 5 punti dall'Empoli potrebbe esserci, mancano pochi istanti alla fine, un'altra squadra che è il Crotone, che sta vincendo 2-1 Verona contro il Chievo. Ferrari, Pellissier e Falcinelli, e in questo momento dovesse finire, mancano davvero pochi istanti, salirebbe a quota 17 punti. L'Empoli è fermo da due secoli a quota 22, esatto. E quindi sì, in questo campionato del Ciapanò che è in fondo alla classifica, può anche essere che facciamo il tipo per le Cenerentole di questo campionato. Perché no, bisogna sempre farlo alle 20:45 Napoli-Juventus, ti dico che non dovrebbe giocare Reina. Ammesso ti interessi, però. No, sì, per carità. Dybala? Si sa niente? Dybala parte dalla panchina, Mandzukic quasi certamente in campo. Reina questa mattina è stato aggregato ai convocati di Sarri, però le notizie che vengono da Napoli dicono che il provino non sarebbe stato straordinario. Va bene, caro Capuano, buona trasmissione fra due è minuti. È finito Palermo Cagliari, 1-3. 1-3. Benissimo. Caro Capuano, anche il dottor Minghi ti saluta. Alla prossima. Molto, molto lieto. E anche Nicole, saluta Capuano. Say goodbye, say bye to Capuano. Ciao. Non dillo in inglese, a lui fa piacere. Goodbye. Goodbye. Senti, possiamo restare qui ancora, se vuoi. Smetti, la roba non è una telefonata erotica, Capuano. È una trasmissione sulla voce. Santa miseria, va bene. A domenica, ciao. Anche loro con le voci non scherzano. Però, no, sono bravi. Queste voci che vanno a 1000 all'ora, sono delle mitragliatrici. No, bravissimi davvero. E allora, prima di dare la linea a tutti i convocati, mi metti 1950 in sottofondo, la canzone Manifesto, per favore. Ti ringrazio, voglio andare via con questa canzone nelle orecchie negli ultimi 30 secondi. Ringrazio veramente tutti, veramente, di volerci così bene. Io ringrazio intanto, grazie Nicole di questa tua testimonianza da lontano, che mi ha fatto molto piacere. Amedeo, abbiamo fatto un programma internazionale. Sì, abbiamo fatto internazionale. Grazie Nicole. No, grazie a te. Grazie a te con i tuoi amici in tutto il mondo, visto il collegamento tuo con internet, devo dire, il tuo Facebook, al di fuori delle cose, grazie davvero per questa ospitanza, perché veramente è stata un'esperienza. Ci siamo raccontati bella, così. Ci ha avuto il tempo di raccontarsi. Divertente, hai dato anche modo di raccontarci in maniera più diversa, autentica, no? Se non diversa, davvero più vicino a quello che siamo davvero. Inside, insomma, no? Inside il nostro amico Minghi. Inside Minghi oggi è stata la puntata. Sì, okay? Praticamente sì. Adesso se mi sciogli la catena, cioè il lucchetto, sì. E via, facci i massaggi, no, però, pure sulla sedia. No, però sarei rimasto volentieri, anche se non mi avessi legato. No, no. Amedeo Minghi, grazie, grazie, Pino, grazie a tutti, grazie. Voi. Ci sentiamo domenica prossima. Grazie di volerci così bene. Ciao. Ciao.